Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità, e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La Zanzara. Scherzavano per le dimensioni del mio pene ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone, sì, perché il pene mi dà pane. Vabbè, non è che l'ho detto io, vabbè che non l'ho detto io, sia chiaro, non l'ho detto io. Ma Grillo, Renzi soffre di invidia penis, sente profondamente la mancanza di un programma elettorale del PD, meno L, eccetera eccetera, poi spiega politicamente perché ce l'avrebbe più piccolo di lui. E però la metafora c'è tutta, la metafora sessuale di Grillo, che l'aveva usata pochi giorni fa. È fissato col sesso Grillo, lo ripete continuamente, è la sindrome del comico che non riesce mai a superare. Pochi giorni fa, ascolterete poco, però cercate di capire, no, in questo audio un po' complicato, aveva detto, beh, al posto di Berlusconi è arrivato uno come Monti che non fa l'amore, non scopa dal 1900, non so quanto, sentite. Rigor Monti, quando è arrivato, Rigor Monti, se avesse detto una cosa, se avesse retunificato, si fosse presentato, chiunque si fosse presentato dopo Berlusconi faceva una bella figura, no? Arriva questo qui, che l'ultimo rapporto sessuale l'aveva avuto nel 1954. Questo è uno dei tanti comizi siciliani, l'ultimo rapporto sessuale di Monti nel 1954. Non c'è niente da fare, Grillo fa politica anche così, con le metafore sessuali. Buonasera Parenzo, dove sei? A me non fa ridere, sono a Roma alla sede della Sette, dove a sto te lavorando. Non fa ridere perché sei rimasto ancora alla politica tutta seriosa eccetera. Intanto questo qua va in Sicilia, prende probabilmente consensi e bisogna posso fare i conti con lui, non c'è niente sicuro, da fare. Posso dire che non mi fa ridere. Comunque guarda, nuovo corso della Zanzara, da oggi un po' di cultura. Ungaretti, allegria di naufragi, e subito riprende il viaggio come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare. Sonetto dedicato di Ungaretti a Massimo D'Alema, allegria di naufragi. Pisanu in Parlamento dal 1972, signore e signori, dal 1972 stiamo parlando. Sì, perché voglio farvi ascoltare la sua voce ieri, quando ha detto durante la presentazione di un libro in cui c'era naturalmente a fianco a lui De Mita, europarlamentare in Parlamento non so da quanto tempo, e D'Alema, tutti rottamandi, dicono Pisanu, sentiamo. C'è una famiglia sarda che detiene il record della longevità mondiale. Consentirete a un sardo di tenere il record dell'anzianità parlamentare in Italia? Era il 72. Ha visto la caduta del muro di Berlino. No, ho visto di più. Ho visto di più, ho visto anche la caduta del fascismo. Ho visto anche la caduta del fascismo, risponde ironicamente Pisanu a un giornalista che gli ricordava di aver visto la caduta del muro di Berlino. In realtà la caduta del muro di Berlino 89 l'hanno vista in tanti che sono attualmente in Parlamento. Abbiamo già collegato una persona, resti lì, ferma questa persona, ferma un secondo, dobbiamo ancora ascoltare una cosa, questa ridicola discussione intorno alla data delle elezioni in Lombardia, discussione ridicola. Perché? Perché non si capisce perché non si debba votare subito e a Natale anche. Formigoni dice si può votare anche la domenica di Natale, sentiamo, il 23, la domenica prima di Natale. Il primo termine dei 45 giorni ci porta a votare la domenica prima di Natale. Io mi batterò perché questo termine, molto ravvicinato, me ne rendo conto, però sia rispettato. E su questo devo dire nulla questio. Perché la Lega insiste con aprile? Ci sono tutti i giochi politici intorno. Si voti quanto prima, si risparmia. Chi se ne frega? Le elezioni sono le elezioni, che si può risparmiare pure sulla data delle elezioni. Si vota quando... In Italia è anche difficile votare. In Italia è anche complicato indire le elezioni delle regioni, è una cosa pazzesca. Perché stai al telefono con Taormina, scusa? Ah, ti sei liberato? Sì, dopo, vabbè, dopo, dimmi dopo. Vediamo che sono in diretta con Cruciani, si sta incazzando. Ma chi è? Al telefono con te. No, non ti preoccupare, Carlo, tanto quello lì si arrabbia comunque sempre con me. Ciao, Carlo. Ma chi è Taormina? Sta al telefono con Taormina. Scusami? Tabacci, voglio fare sentire Tabacci perché non ne posso più. Tabacci, candidato a tutto. Adesso, oltre alle primarie del centro-sinistra, si candida anche alle primarie per la regione. È deputato e assessore. Ma quante ne vuole fare il signor Tabacci? Se in Lombardia è in campo, io le ho già detto prima che non ho difficoltà a compiere questa scelta, però mi sembra di capire che se le cose dipendono da Maroni e da Formigoni dovremmo aspettare ancora un po' per capire dove vanno a parare, perché i giochetti tra di loro mi sembra che abbiano... Infine, grande casino nel centro-sinistra perché c'è anche una foto che è apparsa sul web del camper di Renzi che schiaccia una figura di D'Alema. Un'istigazione alla violenza, dicono alcuni. Insomma, si è riaccesa la polemica intorno alla rottamazione di D'Alema. La voce di D'Alema non è il capo che decide chi si candida. Bersani ha giustamente polemizzato con la teoria della rottamazione e ha spiegato la verità, cioè non è un capo che fa le liste da noi, anche se vince le primarie, ma sono gli organismi dirigenti del partito. E in un'intervista a Repubblica dice anche: non sono un cane bastonato, non farò la fine di un cane bastonato e ve ne accorgerete. Insomma, non molla, lotta D'Alema, giustamente lotta secondo me. E ha ragione. Dovrebbe non candidarsi, a mio parere, però giustamente lotta. Vittorio Sgarbi è con noi, buonasera. Ecco. Dove sei, Vittorio? Sto andando a trovare i miei genitori a Ferrara. Oh. Ma non avevano pignorato la casa a tua madre recentemente? Non lo so, non mi pare. Però hanno fatto una cosa strana. Una casa dell'Ariosto, che è di mia madre. Sì. Era libera da ipoteche, ma sì, una vicenda che non mi è chiara. Insomma, comunque la casa di mia madre immagino che abbia avuto temporaneamente qualche... lo so, non è che rimane senza casa, no? No, ma non è che rimane senza casa, era stato estinto il debito relativo a un mutuo, invece si erano dimenticati, ma è una questione che loro abbiano risolto con Befera. Non è che sono i soliti casini che hai fatto tu, no? Ma sì. Poi io non faccio mai niente, perché io non mi occupo di amministrazione mai, non ho mai visto una lira in vita mia. Beh, come no? Tu non giri mai con i soldi, cioè tu non hai una lira in tasca? No, io non ho mai visto la differenza tra la lira e l'euro, non la conosco. Ma come, dai, su? Allora, uno vive come vuole, no? Io vivo senza denaro. Cioè tu vivi senza denaro, chi ti tiene? Cioè, in banca quanto hai? Pago tante persone che lavorano per me, c'è uno che lavora in biblioteca, uno che fa l'autista. Scusa, ma se devi andare al bar, come fai? Chi paga? Quando vado al bar mi offrono qualunque cosa perché sono Sgarbi. Ah, così? Ti offrono qualunque cosa? A me non mi offrono mai nulla. Perché la grande apparenza è questa. Però se tu sei talmente ignorante, quando vuoi fare il colto, attribuisci a Ungaretti un sonetto che non ha mai scritto. Non ha scritto un sonetto, ha scritto dei versi liberi. Bravo, diglielo. Quando vuoi, lei hai detto, è un sonetto di Ungaretti. Ungaretti no, ho detto un sonetto sbagliato, effettivamente. Ho detto un sonetto, purtroppo, come non è un sonetto all'infinito, perché ha 15 versi sì, e non 14, sono versi liberi. Il sonetto sì, ha 14 versi che sono costruiti 4 4 più 3 più 3, e quindi inutile che siamo a ma quando uno vuole fare un passo più lungo della gara fare il colto, no, ha detto una cosa giusta, non è tanto la lettura del sonetto mancato, che quello che dice Grillo non fa ridere, certo non fa ridere perché occuparsi. Beh, lo dici tu. No, ma posso farlo anch'io in comizio, posso fare di tutto, se posso di chiunque e prendere per il culo chiunque, perché rispetto a Monti io ho scopato anche fino a 20 minuti fa. E rispetto a 20 minuti fa no, perché sei in macchina. Dal punto di vista di quello che io faccio non ho nulla di cui debba rispondere a Grillo, però l'idea è che uno vada a vedere con chi vai a letto, cosa fai, è una cosa patetica. Quindi voglio dire, cosa farà Renzi non lo so, ma quello che è certo è che uno che se scopa male, per quanto è brutto, grasso, sì, tifoso e puzzolente, è Grillo. Questo vabbè, adesso questo che ne sai, questo che ne sai, scusa. Lo vedi, no? Non parlo di quello che lui fa, dico se fa con quella, come dire, grassezza molesta, quei peli infetti e quell'aria che non si capisce perché parli di Renzi, che è uno che magari si lava e pulito, non ne sa della lunghezza del cazzo di Renzi, si occupi dei cazzi suoi, che è già abbastanza. No, scusa Vittorio, adesso al di là... Toscani, come Toscani, Toscani che cosa, basta con Toscani, cosa, basta, cosa ne sa, no, ma dico, l'avete mandato voi in onda la vicenda, vabbè, dopo ci siamo anche risentiti, No, ma no, non polemizzo con voi, dico, ma uno è stato a letto con me? No. Ha visto il mio uccello? No, di che parla? Scusa, ha visto l'uccello di Renzi, questo pirla, questo mentecatto, nuotatore, fascistello tra Mao e Mussolini che fa la nuotatina, l'ha visto? No, e di che parla? Parli di quello che conosce, no? No, però scusa, scusate, ma anche sei figli, ha anche sei figli, signor Grillo. Ma chi si occupa dei cazzi suoi? No, vabbè, ho capito, ma era una metafora, era una metafora. Ma va benissimo, ma io sono, dico, no, ho detto semplicemente che giustamente non fa ridere Parenzo, poi che uno la voglia fare la faccia. Però scusa, perché dice puzzolente, grasso, eccetera, eccetera? Mica, se cominciamo a fare le valutazioni sul corpo degli altri, guardi il suo. C'è uno che mangia troppo, che non si è curato abbastanza, pieno di ciccia, pieno di stili superflui, con quella barba inutile. Dico, non ho capito, se uno vuole lo prende per il culo fino a farlo morire. Oltre ho capito, ma anche tu sei un mezzo malvissuto, scusa. Quindi voglio dire, se dobbiamo cominciare a prendere per il culo qualcuno, cominciamo con lui. Vabbè, no? Ma anche tu fai sempre queste anche metafore. Tu sei un mezzo malvissuto. No, non è che sei profitto, dico, ma non mi sembra che facciano ridere quello che ha scopato nel 54, quello che sta l'uccello piccolo. No, sono cose che non voglio dire che la politica... Cioè, se le può permettere solo Sgarbi queste cose, scusa. No, neanche, ma se voglio le posso fare, ma non mi sembra che debbano far ridere per forza. Quindi ragionavo per dare una volta ragione a Parenzo, che benché abbia sbagliato il sonetto, ha però detto che non lo faceva ridere, cosa lecita, non mi pare. Scusa un attimo, ma qual è questa storia dei soldi? Cioè, tu veramente in tasca non hai mai mezzo euro? Allora, io posso dirti come andò. Sì. Nell'89 cominciai ad avere una certa fortuna televisiva. Sì. E nel primo contratto per la televisione, sì, con la Carrà. Sì. 500 milioni. Sì. Secondo contratto nel 91 con Mike Buongiorno, 500 vabbè, milioni. Adesso non fare più. Quando arrivai in Parlamento, sì, risultai essere, rispetto all'immondezza corrotta, il secondo per dichiarazione di... Primo era Agnelli, secondo sì, io. Sì, ma adesso quanto hai in banca? No, niente in banca perché ho speso tutto per querele ed altro, ma non... Voglio dirti che non so delle banche che non mi sono mai interessate, ma sì, da quel momento... Io, qualunque cosa sia capitata, non ho più seguita direttamente. Ho avuto un agente, ho avuto uno che si occupava delle tasse. Cioè tu non sai nulla, dei tuoi soldi non sai niente. Non ho più guidato l'automobile, non guido l'automobile da 89. Allora io non so né quello che spendo né quello che guadagno. Vivo felice. Ci ho dovuto fare 75.000 euro per aver detto a Travaglio che era un pezzo di merda. Glielo ho dati, non mi vabbè, sono... Non mi ha... Non... Cazzo, non me ne sono accorto, non me ne accorgo. Quindi tanto guadagno quanto spendo. Beato me, appunto, ti dicevo, ma questo è un problema di scelta di vita, per cui certo, non ho il denaro. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Giudicate voi questo paragone che ha fatto Ciriaco De Mita. Ciriaco De Mita ieri, sempre durante la presentazione del libro di Pisano. Capito, Parenzo? Due... Vabbè, De Mita, no, io difendo il... aspetta un attimo, Monti come il nero Ballotelli in nazionale, cioè Monti è un'anomalia e io mi sembra di aver capito come Ballotelli il nero in nazionale, sentite. La figura di Monti viceversa è un po' un episodio, è come scegliere per il centro attacco della nazionale Ballotelli. Ci va in nero, vabbè, insomma, è quello che gioca meglio. Serve per far vincere la nazionale, si gioca. Beh, insomma, De Mita, Che dici, Parenzo? No, magari il paragone il paragone è un po' infelice. È davvero infelice e di cattivo gusto. Cioè, lui dice Monti è un'anomalia, ma è forte, il più forte di tutti. Anche Balotelli, secondo lui, è un'anomalia in quanto nero, però il più forte di tutti però deve non giocare. Si può, come dire... Beh, è una cosa, l'avesse detta qualcun altro, sarebbe stato... un leghista, sicuramente avremmo detto ecco. Questo non c'è dubbio. Dopo a De Mita... Senti, Vittorio, ma Pisano che si vuole ricandidare dopo che è alla Camera dal 72, che dici? Non verrà eletto, quindi verrà ricandidato, non verrà eletto. Beh, che ne sai, nella lista quella là con... No, ma non lo metteranno mai nessuna lista bloccata, speriamo che non ci siano liste bloccate. Ci devono essere le preferenze, uno che prende i voti li prende, come è sempre stato e come deve essere. Non c'è... Vabbè, ma le preferenze furono cancellate nel 92, portavano un sacco di clientele. Fu un errore di uno come Segni che non sapeva quello che faceva. Perché ti spiego, perché tu l'altro giorno hai detto una puttanata. Qualunque lista nuova, comprese quelle di Grillo, sì, Speriamo che abbia la lista bloccata che, di cui si parla, che quella poi è stata letta la Minetti, quindi da un lato odio le liste bloccate, quindi non si deve più votare perché le bloccate non vanno bene e le libere non vanno bene. Allora, i primi 5 che devono uscire, quindi non fanno campagna elettorale, gli altri 15 che stanno di uscire non fanno, che se la fa campagna elettorale nessuno, perché quelli che sanno che non usciranno mai stanno fermi. Allora, qual è, al di là della sanzione per quelli che comprano voti, che deve essere gravissima, che la gente si mette in movimento cercando i voti di quelli che hanno la volontà. Dice, quando tu sei davanti a una donna, ti sceglierà o no? Tra te e Parenzo, deve prendere Parenzo perché viene prima? No. Prende te per... Allora, la preferenza è la vita e l'altro è la morte. Se però ti piace la morte, fai le tue teorie del cazzo. No, ma io dico che le preferenze, Fiorito e Zambetti sono stati eletti con le preferenze, ti ricordo, il signor Zambetti con l'Andrangheta, forse. E la Minetti è stata eletta senza, quindi non va bene niente. Allora, sto dicendo... Ho capito, ma basta non metterla la Minetti, però, basta non metterla. Ho fatto un ottimo sindaco di Anagni, che io conoscevo perfettamente. Beh, è so, ottimo sindaco. È stato un ottimo sindaco, si è fatto quello che ha fatto. E perché? Ma se ne sai! È una figura totalmente inutile, che non può fare altro che cercare di rubare soldi, perché non ha nessuna funzione. Bisogna abolire le regioni. Quello sì. Senti un attimo, ma tu, scusa, qualcuno ti ha proposto di fare l'assessore in Lombardia? Dai, questa qua è una stupidaggine. No, sono stato da Formigoni. Abbiamo la data del voto, che sarà 23 o 27 di gennaio, e non, perché ovviamente sarà quella. Abbiamo stabilito che io farò la mia lista di sostegno a Albertini, che noi prenderemo Maroni. Cercherò di convincere Berlusconi a lasciare Maroni. Cioè, ma pare che ci sia un accordo tra Berlusconi e Maroni su questo. Vittorio non c'è più. Roberto, non ho capito, Roberto da Milano, sì, lui si inventa pure la lista di appoggio. La lista di appoggio del Partito della Rivoluzione ad Albertini. Perché devi danneggiare Albertini? Perché devi danneggiare Albertini, Vittorio? Perché? Che bisogno c'è della lo chiamiamo lista? Dopo, Roberto da Milano. Mi fa venire il sangue al cervello, si candida ovunque, si candida anche nel mio condominio. Roberto, posso parlare? Vada. Dov'è Vittorio? Dunque, no, io no, volevo telefonare ieri sera. Tanto è in viaggio, lo possiamo chiamare sempre. Roberto. Sentivo Bocchino ieri sera che parlava a proposito di una situazione di sindrome rancorosa da beneficato. Ma mi è venuto in mente che forse è la stessa sindrome di cui, non so voi cosa pensate, di cui ha sofferto l'onorevole Fini nei confronti di Berlusconi 2 anni fa. Quando è stato può essere. La sindrome del beneficato, sì, così ha detto. Sembrava proprio la stessa scena di uno che è stato tutto sommato beneficato in politica da Berlusconi ed è stato, a un certo punto si è rivoltato, come dire... Grazie, Giuseppe dalla provincia di Catania, buonasera. Buonasera. Dica. Mi volevo agganciare al discorso delle preferenze. Si dice tanto che le preferenze, i voti che vengono dati a determinate persone per scambio clientelare o per acquisto di voti. Se noi mettessimo un peso al voto di ogni persona. Che significa un peso al voto di ogni persona? Che il censo, che cos'è? Il censo. Allegare alla scheda elettorale 10 domande tra migliaia estratte a caso. Vabbè. Facciamo la punturina? Facciamo la punturina, Giuseppe. Lei vuole tornare a un voto, ai voti che valgono di più a seconda della preparazione, cose di questo tipo, a seconda dell'istruzione? Io sono stanco. Io mi sono sentito dire che qualcuno ha votato Berlusconi perché gli piaceva Maldini. Cioè, il mio voto. Ma quella è la democrazia. Ma tutti possono andare a votare, possono informarsi e tutti possono decidere quanto può valere il proprio voto. Parti tu con la punturina oppure parto io? Dimmelo. Ma poverino, ma che punturina? Cioè, sembra anche convinto di delle follie che dice, che gli devi fare? Scusi Giuseppe, ma come fa a dire una cosa del genere? Fagli una carezza, portagli una minestrina e mandiamola a dormire. Lei è da mandare ma a dormire. Con dolcezza, senza aggressività. Ma, scusi, dolcezza. Perché non funziona? Chiunque si può informare, chiunque può... Ma come si fa a pensare una cosa di questo tipo? Come si fa a pensare una cosa di questo tipo? Il mio voto deve valere quanto il suo, non è perché io sono vale più preparato. Ma il suo vale quanto il mio? Se lei si informa quanto me, nessuno glielo vieta. Ma che vuol dire? Ma come si giudica l'informazione? Ma uno ha anche diritto a non informarsi, sa. Esatto. Ma diritto. La democrazia è tale se è partecipata. Non è vero, non è vero, ma questo democrazia. Lo dice lei. Per me in America, dove votano poche persone, c'è più democrazia che in Italia. Quando votano in tanti è una cosa negativa, ma secondo me. Non sto parlando del numero. Io infatti non sto parlando del numero. Io parlo anche di questo. Votare. cioè si votava al 90%, 80%, tutti dicono l'affluenza al voto eccetera è molto alta, ma è molto alta nei regimi sovietici, era votava al 90%, però c'era un problema. Non voglio che, non sto parlando di numeri. Vabbè, grazie. Giacomo dalla provincia di Lucca, ho capito, parte la punturina. Giacomo, provincia di Lucca. Sì, buonasera Cruciani, dottor Cruciani, volevo dire questo, si fanno sentire solamente le persone che secondo me, poi mi bastonerete, sì, sì, che dipendono dallo Stato, gli statali. Io volevo dire questo. Ma chi si fa sentire chi dipende? Che vuol dire, scusa? Allora, vuol dire questo, vuol dire che non ci sono scioperi di persone che hanno un'attività in proprio. Lei ha mai visto una dimostranza in piazza di persone che hanno un'attività in proprio contro il governo, contro delle manovre? No. E resiste Formigoni, sentitelo, a me non mi rottamerà nessuno. A me non mi rottamerà nessuno. Se questa è la frase castica avete ripreso, se no lo rifaccio per le telecamere. A me non mi rottama nessuno. L'assurda guerra sulla data delle elezioni in Lombardia. Sentite Lara Comi, europarlamentare europea, e Galli della Lega. Al voto prima di Natale, l'altro dice il 7 aprile, ma chi se ne frega, si voti il più presto possibile e basta. Penso che il voto sia prima di Natale o subito a gennaio. Ci rivedremo presto. Ma credo che si voterà il 7 aprile. Ma chi se ne frega, litigate anche su questo. Ma ti posso segnalare una cosa che mi fa ribollire il sangue? Che è successo? Dimmi. Guarda, ieri c'è stato questo confronto alle 3 del mattino tra Obama e Romney, giusto? E allora? Benissimo. C'è un deputato, di cui io ne ignoravo l'esistenza, che si chiama l'onorevole Simone Crolla, del PDL, sì, che ha diramato alle agenzie... Sì, Crolla è quello che è subentrato recentemente a un altro deputato, Simone Crolla. L'abbiamo anche incontrato in un ristorante recentemente in compagnia dell'onorevole Ravetto. Bravissimo, bravissimo. L'onorevole Crolla oggi ha dichiarato... Che si chiama anche Crolla, Crolla. Sì, oggi ha dichiarato... Siccome il PDL è crollato, non è stato un grande ingresso alla Camera per il signor Crolla. Esattamente, il signor Crolla ha commentato il dibattito di Obama. Sì. Aperte virgolette, Obama si assuma la responsabilità di Bengasi. In Italia non succederebbe. Ora, signor Crolla, secondo lei il signor Obama guarda le agenzie e dice: oh cazzo, Crolla ha dichiarato contro di me. Ma di che parliamo? Perché uno deve mettere sulle agenzie di stampa, deve diramare nel mondo delle notizie la sua opinione su Obama dicendogli che ha sbagliato su Bengasi? Perché? Ma soprattutto tu ti immagini Obama che dopo il suo bel confronto con Romney torna alla Casa Bianca, arriva uno dei suoi principali collaboratori e dice: Mr. President, there is Mr. Crolla that has something for you. Dice: Crolla? Who is Mr. Crolla? I never heard of her. Ci rendi conto? Crolla. L'onorevole Crolla. Ma perché? Ma il titolo dell'agenzia mi fa mandare i matti. Qual è il titolo? Oh, Crolla, due punti. Obama si assuma la responsabilità di Bengasi. Obama, capito? Obama! Crolla versus Obama! Tabacci, candidato a tutto, lo voglio fare risentire, sì, perché nell'ordine è assessore al bilancio, che non è proprio una cosa così piccolina, al Comune di Milano, parlamentare, non si è mai dimesso, gliel'abbiamo ricordato e si è pure arrabbiato, e non è più venuto alla Zanzara, questo lo ripeto ancora, ma chi se ne frega, e anche candidato alle primarie del centrosinistra, candidato alle primarie in Lombardia, e basta, su. Se in Lombardia è in campo... Io le ho già detto prima che non ho difficoltà a compiere questa scelta, però mi sembra di capire che se le cose dipendono da Maroni e da Formigoni... Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il governo pone la fiducia sulla legge anticorruzione, la Severino, legge valida, nessun inciucio, interverranno anche sulla incandidabilità dei condannati. L'imprenditore indagato per corruzione ammette davanti ai PM di aver versato 1 milione alla compagnia delle opere. Si dimette il presidente. Formigoni, il 25 ottobre si scioglie il consiglio regionale, prima di Natale al voto, scontro aperto nel PDL su data e candidato. Bersani sulle candidature, basta polemiche, io non scarico e non caccio nessuno, D'Alema, difendo la nostra storia, sbaglia chi pensa che sia finito. Stabilità, Grilli disponibile a modifiche su detrazioni e IVA, ma serve 1 miliardo. Bersani, ora basta scherzare, sui mercati crolla lo spread. Allarme della Caritas, sempre più poveri tra casalinghe e pensionati, 1/3 di chi chiede aiuto per sopravvivere ormai è italiano. Obama vince il secondo dibattito per restare alla Casa Bianca. Lo sfidante Romney accusa il colpo, ma i sondaggi sono ancora in bilico. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Antonio da Bari ci chiama, buonasera. Ma hai sentito? Cosa ho sentito? No, è stranissimo che il TG3 non abbia riportato la dichiarazione di Crolla su Obama nei titoli dell'onorevole Crolla. Ah, vero, vero, vero, hai ragione, hai ragione, non l'ho sentita. Vero. Molto strano. No, perché ha parlato di Obama. Sì. Però non ha riportato la dichiarazione dell'onorevole Crolla. Dice, si prenda le sue responsabilità su Bengasi. Antonio da Bari. Buonasera, dottor Cruciani. Dica, bisognerà chiamarlo al volo questo Crolla, eh? Secondo me questo Crolla è fantastico, perché io penso che sia lo specchio esatto di quello che è la nostra situazione politica in questo momento, dove le pulci si permettono di parlare degli elefanti. Vabbè, adesso le pulci, su le pulci, sì, comunque politicamente una pulce rispetto a un gigante, comunque esattamente. Allora? Come la stessa cosa che io chiamavo per quanto riguardava quello che inizialmente diceva Parenzo in merito a Grillo. Parenzo, quello è Scilipoti che lo chiama così. Per quanto riguardava le affermazioni fatte da Grillo, effettivamente che fuori luogo e fuori. Ma è una metafora, è una metafora. Non mi lascia, non mi fate difendere Grillo, lo sto difendendo anche troppo ultimamente. No, è una metafora. Dice che non ha il coraggio, non ha il coraggio di essere fino in fondo grillino. Questo è il punto. E dunque dice che ha. Ma auguro che non ce ne siano altri grillini. E dunque dice che soffre di invidia penis. Cioè lo vorrebbe avere più lungo come Grillo. Questa è la metafora, ma in realtà non ci arriva fino a Grillo. E dunque ce l'ha piccolo. Questa è la metafora. Ognuno usa la metafora che vuole. Come la ciminiera del depuratore di Parma, cioè dell'inceneritore di Parma. Che vuol dire? Allora, prima, che non riescono a gestire una cosa che del quale, cioè, in quel caso ce l'hanno piccolo, dice lei. Si sono vantati durante una campagna elettorale, sì, di una situazione che invece non sono capaci di gestire. Va bene, allora, grazie, ho capito benissimo. Marco da Roma, buonasera. Marco? Con comodo, eh? Marco? Pronto? Sì, con comodo. Con comodo lo diciamo anche noi. Allora. Ho capito, ma lei lo sa come funziona qui. Insomma, non lo sapevo, no. Niente, no, noi più che altro, ecco, stavamo parlando appunto già da ieri sulla questione, due questioni. Una che mi interessava ieri, che poi quando... Vabbè, dica, ieri... vada veloce, su, Marco, senza ricordare ieri, oggi, domani, dopodomani, mi dica. Sì, praticamente sulla questione di Emilio Fede, che si ricandida col suo movimento, eccetera. No, non eccetera, si ricandida, no? Dice che fa un movimento e si candida alle elezioni politiche. Qual è il problema? Vuole impedire a Fede di candidarsi? Eh no, mi fa piacere che lei dà spazio a questo tipo di notizie. E come se gli do spazio? Fra poco lo chiamiamo pure al telefono. Cosimo da Milano, buonasera. Cosmo, senza la I. Cosmo, il solito Cosmo da Milano. Avanti, parta, su. Allora. Parta. Parenzo chiama qualcuno. Alta voce, devo essere ben ascoltato. No, non si sente niente. Gianluca da Modena, buonasera. Bravo, buonasera. Io... volevo intervenire su Sgarbi. Sì. A me è sembrato, a parte il vocabolario che usa, sembra abbastanza... Che lo conosciamo ormai, abbastanza. No? Lo conosciamo, però non è ammissibile che uno passa dalla televisione alla radio a 10 parole, 9 parolacce. Vabbè, poi? E poi lui si permette di dare addosso a destra e a sinistra, quando comunque lui sappiamo benissimo che è uno dei parlamentari meno presenti in Parlamento. Non è in Parlamento Sgarbi? Sì, dov'è comunque? A Roma. Ma che vuol dire a Roma? A Roma non è in Parlamento, ci sono tante persone a Roma. Nel passato, dice lei, non lo so a cosa si riferisce. Nel passato. Nel passato, perché gliel'ho detto io adesso, su. Poi? va bene. Ma se non le sa le cose, cosa interviene a fare? Dice è in Parlamento da tanto tempo, è assenteista. Non è vero. Cioè, Roberto da Bologna, su. Buonasera. Io sono d'accordo con il conduttore che non è importante la data in cui si voterà, mi sembra però più importante la data di scioglimento del Consiglio regionale della Lombardia, che è stato fissato da Formigoni il 25 di ottobre, dal 24 d'ottobre scatta il vitalizio per i consiglieri. No, guardi, su questa cosa c'è una grande propaganda, c'è una grande propaganda. Mi sta comunque dicendo che non è vero? No, non è vero, perché i consiglieri restano in carica comunque, per cui non è importante la data di scioglimento adesso. I consiglieri resterebbero questa comunque in carica. Conforta. Ma guardi, si dicono tante stupidaggini su questa cosa qui, si figuri se sono io favorevole al fatto che qualcuno incassa 1200-1300 euro di vitalizio pur avendo fatto 2 anni di consiglio regionale o giù di lì. Però mi pare di aver capito che non è così, che in realtà restano in carica e dunque conta anche fino a quando si andrà a votare. Così ho letto da qualche quindi parte. Per non prendere il vitalizio si sarebbe dovuto sciogliere da parecchio. Esatto, sì, esatto. Poi secondo me bisognerebbe abolire il vitalizio, il fatto che comunque si prenda dopo 2 anni o 2 anni e mezzo quello che è di consiglio. Eliminare il vitalizio dalle regioni innanzitutto, poi su quello in Parlamento si può ragionare, per me andrebbe abolito anche quello, dalle regioni aboliamolo subito, certo. Per cui non c'è nessuno, poi che lo prendano adesso, lo prendano dopo, ne prendano mezzo, purtroppo quella è la legge e non si potrà cambiare retroattivamente, per me bisognerebbe farlo, eh. Però comunque non credo che sciogliendolo il 25 prendano il vitalizio, l'avrebbero preso comunque, anche sciogliendolo il 20, il 18, il 15, il 10 ottobre. Sentite Ciriaco De Mita, giudicate voi se questa frase non è un tantinello razzista, eh? L'abbiamo ripescata, l'hanno ripescata i miei collaboratori, costruttori di questa trasmissione, all'interno della lunghissima conferenza stampa di presentazione del libro di non mi ricordo chi, forse dello stesso De Mita, insieme a Pisano e D'Alema ieri. E a un certo punto De Mita dice una cosa su Monti e lo paragona a Balotelli, sentite. La figura di Monti, viceversa, è un po' un episodio. È come scegliere per il centro attacco della nazionale Balotelli. Ci va in nero. E vabbè, insomma, è quello che gioca meglio. Serve per far vincere la nazionale, si gioca. Beh, insomma, Monti come anomalia e Balotelli come anomalia, solo che sono tutte e due forti e fanno vincere. Questo dice il signor De Mita, europarlamentare dell'UDC, peraltro uno dei più assenteisti. Questo lo voglio ricordare, Parenzo. No, non è che voglio fare antipolitica per forza, però. No, questo è giusto. Alcune cose vanno ricordate. Fatto bene a ricordarlo, che è un assenteista, al Parlamento europeo ci va praticamente mai. Mai, praticamente, ma andate a vedere nella classifica delle presenze al Parlamento europeo, Andate questo a vedere, non è che lo dico io, Pisano dal 72, voglio fargli ascoltare anche questo, è anche spiritoso nella sua risposta di ieri, dal 72 in Parlamento, dice io sono sardo, là c'è il record di longevità, di vita, io voglio raggiungere il record di longevità politica, già 40 anni, però vuole andare oltre. C'è una famiglia sarda che detiene il record della longevità mondiale. Consentirete a un sardo di tenere il record dell'anzianità parlamentare in Italia? Era il 72. Ha visto la caduta del muro di Berlino. Ne ho visto di più. Ho visto di più, ho visto anche la caduta del fascismo. Non è l'ora dopo. Tu sei come una piccola zanzara. Nel PDL stanno messi malissimo, a questa riunione del PPE non so dove, Berlusconi non è andato e c'è un giallo. Frattini dice che ha sbagliato, Alfano dice che ha avuto la febbre. Mettetevi d'accordo prima, PDL o quello che rimane del PDL. Ieri la Santanchella ha detto chiaramente: il PDL ormai non esiste praticamente più, bisogna che si dimettano tutti, coordinatori, eccetera. Rullo di tamburi è con noi per parlare della situazione. Un po' di. C'è qualche piccolo dissidio, diciamo così, nel PD in queste ore, soprattutto su qualche foto uscita fuori, sulla questione D'Alema. Chiara Geloni, direttrice di UDEM, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, voi? Non c'è bene. Male, combattiamo. Che succede lì a UDEM? Che succede? Che succede? Che deve succedere? Niente, si lavora come si lavora da tutte le parti, perché chiedi che succede? Chiedo. Scusi, le ha fatto piacere vedere questa foto di D'Alema con il camper di Renzi? È vero che loro si sono dissociati, però qualcuno parla, insomma, di un'istigazione alla violenza. Insomma, non è una bella foto, Beh, no, non è una bella foto, è piuttosto brutta. Ma di chi è la responsabilità? Non è un episodio simpatico. No? È quello che non c'è dubbio. Però la responsabilità in qualche modo è di Renzi and C, di qualcuno intorno a Renzi, del clima creato da Renzi oppure no? Ovviamente la responsabilità è di chi ha inventato questa bravata, però io avrei voluto una presa di distanza più netta da parte proprio di Matteo Renzi, che non oggi stranamente non si è ancora sentito, no? Strano, perché di solito tutti i giorni parla, invece oggi non ha detto niente. Beh, c'è un'intervista a Panorama in realtà. No, l'intervista a Panorama è di molti giorni fa, non sì, è di oggi. È stata diffusa oggi, sì. Essendo un settimanale, certo. L'intervista non è di oggi. Io credo che... l'ho già detto in altre occasioni e lo dico anche oggi, quindi insomma non sono sospettabile di strumentalizzare un episodio, ma la parola rottamazione, il linguaggio che si collega a quella parola, è una parola violenta, lontana dalla cultura del Partito Democratico e crea un clima sbagliato, perché colpisce, punta a colpire le persone e le persone non si rottamano, non si investono neanche coi camper, senza voler paragonare le due. Questo la foto, però la cosa che voglio sapere è: Renzi ha contribuito alla creazione di questo clima? Insomma, Renzi ha puntato su questo slogan della rottamazione e ogni volta che, diciamo, ho notato che nei suoi ultimi discorsi sempre più spesso ha personalizzato lo slogan rivolgendolo contro D'Alema. E dunque un po' è colpevole anche di questa cosa qui, si può dire questa... Di un clima che non so se ha creato lui, forse lo ha anche un po' pensato di sfruttarlo, ecco. Non voglio dire che l'abbia creato lui. Per cui diciamo la mano è quello che ha fatto la foto, però la mente si può dire un cattivo maestro, si può dire tra la foto e la mano che l'ha scattata e la mente, non voglio creare si può legami, dire però un cattivo maestro da questo punto di vista? Insomma, un'espressione di una mentalità che non mi piace, non voglio dargli neanche del maestro, sai. No, vabbè, adesso forse maestro è esagerato per quello che la riguarda. Troppo, sì. Però, siccome stavamo parlando della foto, lei ha detto che Renzi ha contribuito a questo clima parlando di rottamazione, si può dire che questo clima creato da Renzi ha portato poi qualcuno a fare una foto di questo tipo, perché quando uno fa l'immagine di D'Alema sotto un camion, quello è. Una bravata non simpatica, sì. E vabbè, insomma, ispirata anche dalle parole di Renzi? Diciamolo, che ne so. Ispirata da un clima nel quale Renzi si muove. Sai come la chiamano la Geloni? Non so, lei ogni tanto si arrabbia moltissimo, Parenzo, tu lo sai, come la chiamano? Dago Spia, come? Soprattutto, la chiama in un certo modo, lo sai? Come la chiamano? Non lo sai, non sai niente. No, ma che Gelona, mamma mia. La badante di Bersani, non so perché la chiamano così, io non mi interesso poi di queste. Non si chiama nessuno così. Sì, no, c'è una cosa di Dago Spia ogni tanto. Sì, è stato un titolo di Dago Spia, ma non mi ci chiama nessuno. Ma immagino. Non, sarebbe... non mi chiamano così. Stai, non c'è nulla di male a essere molto, molto vicini a. Assolutamente. No, ma non è così. Per carità, assolutamente. Ma voglio dire, è la direttrice del ecco, di una... lavoro qui al PD e dirigo la televisione del PD. Appunto, certo. Sicuramente. Però lei è, ogni volta che, PDL, che toccano un po' il segretario si arrabbia moltissimo, diciamo la verità. Certo. Cioè, si picca moltissimo. Non più di tante altre persone che magari voi non conoscete e che si arrabbiano più di me, però io sono... magari seguita da giornalisti su Twitter che fanno caso ad alcune cose che scrivo, ma non scrivo cose diverse da quelle che scrivono tanti altri, anzi sono molto più moderata di tante altre persone. Il signor Paganelli le ha dato della lecca culo addirittura, Paganelli, che è uno... Ognuno ha il suo stile, sai? Lo so, non gli vogliamo rispondere in qualche modo, no? No, non gli vogliamo rispondere. Non gli vogliamo rispondere, no. Alino Paganelli è uno storico dirigente del partito, lo conosco. Che è passato con Renzi, poi in una discussione ha dato della... No, legittimamente ha detto, lui sta con Renzi e quindi non deve essere, come dire... Ma no, c'era una discussione. Senta, qualcuno ha paragonato Renzi a Grillo per questa ansia di rottamare tutto. Poi oggi Grillo ha detto pure una cosa sulla dimensione del pene, ma era una metafora naturalmente di... Immagino, non so. Renzi. Ma secondo lei c'è qualche somiglianza tra i due, tra Renzi e Grillo? Oggi la battuta di Grillo veramente mi ha ricordato molto Bossi. Sì, quello è vero. Comunque c'è una somiglianza di diciamo non certo di stile, perché lo stile di Matteo è molto diverso dallo stile di Grillo. Matteo è più insomma meno urlato, però... violento nell'impatto, a volte dicono cose abbastanza simili, ma Matteo lo dice, lui dice: ma dovremmo dire le stesse cose che dice Grillo, così Grillo avrebbe meno argomenti, no? No, non dice così, dice: se noi dicessimo certe cose Grillo sarebbe al 2%. Quindi voglio dire, non sono io che mi invento, che su alcune cose Matteo pensa che bisognerebbe seguire Grillo su alcuni argomenti, forse non per dire le stesse cose, immagino, ma per dire cose più simili a quelle che dice lui rispetto a quelle che dice Ma se vince Renzi, lei che fa, signor Geloni? Se facciamo un patto che ci sono le primarie di coalizione, chiunque le vinca fa il leader della coalizione. No, che lei che fa, lei che fa. Lo voto. No, sì, d'accordo, lo vota e questo è già una cosa. Ma non che, felice. Non felicissima, diciamo, no, non contentissima. Preferirei che non vincesse lui, questo mi pare è noto, detto è abbastanza chiaro. Sarebbe una sciagura, diciamo. Sarebbe una sciagura per il PD, come disse ebbe a dire D'Alema a 8:30. Non so come reagirebbe il PD, sarebbe... Una sciagura, si può dire. Una situazione complicata. Complicata, cioè cambierebbero molte cose, ci sarebbe per esempio una fuga, una spaccatura, che ne so. Lei se ne andrebbe dal PD, per esempio? No, io non me ne andrei dal PD. Però c'è gente che se ne andrebbe, magari. Ma andarsene io non credo che ci siano dirigenti che se ne andrebbero. Io non so se tutti gli elettori del PD continuerebbero a votarlo. Ah, cioè secondo lei addirittura si potrebbe... Può darsi che si perderebbe qualche voto. Si può perdere. Però si guadagnerebbero voti. Si guadagna... Sì, ho capito. Si guadagnerebbero voti del PDL. Però si guadagnano voti dall'altra parte. Questa è una teoria, è da dimostrare però. Ma è da dimostrare, sì, è vero. Come dimostrare. La mia, per carità. No, certo. Tutte le teorie sono da dimostrare. Però scusi un attimo, faccio l'esempio, un esempio personale. L'ho fatto anche l'altro giorno con un vostro dirigente che si chiama Nico Stumpo, che ci ha chiamato qui perché io dicevo certe cose. Io sono uno che ha votato tante cose nella mia vita, tanti partiti. Ho votato anche il PD una volta, Penati, figuri un po', a Milano. Sì, ho votato anche il PD, ho votato il PD, ho votato Penati, che devo fare? Mi vuoi ammazzare? Ho votato Penati, bravo, mica, non è mica un delitto votare Penati. Bravo. Ho votato Penati, ho votato Berlusconi, ho votato la Lega, ho votato i radicali, ho votato un sacco di cose perché ho una concezione del voto, vado a votare e poi due secondi dopo me ne frego totalmente, non appartengo a nessuna parrocchia, eccetera, eccetera. E secondo lei io posso partecipare alle primarie del Partito Democratico? Allora, le primarie sono della coalizione di centrosinistra, non del Partito Democratico. Vabbè, quello che tu sarà. Tu sei orientato a votare la coalizione di centrosinistra e non hai difficoltà a dichiararlo, puoi partecipare alle primarie. Sì, d'accordo, però io diciamo che vado a votare perché voglio votare Renzi. Che faccio? E che significa? Ma io voglio, vabbè, non sono costretto a dirlo, però lo dico pubblicamente. Voglio andare a votare alle primarie del PD per votare Renzi. Diciamo, questo sei liberissimo di dirlo, nessuno... Però per votare alle primarie devi dire pubblicamente di essere un elettore del centro-sinistra. Vabbè, lo dico, lo scriverò pubblicamente. E allora vota. E allora voto. Sì. Si può fare. Sì. Pubblicamente che vuol dire? Non è che uno lo deve proclamare. Vuol dire che devi sottoscriverlo, firmare una cosa. Sì. E perché io, se mi scordo di andare a votare al primo turno, non posso andare al secondo? Perché ci sono 21 giorni per iscriversi al... diciamo, a far parte del corpo elettorale delle primarie. Per cui... si considera che sia un tempo sufficiente per costituire un corpo elettorale. E se uno si scorda, in tutte le elezioni si può andare a votare anche al secondo turno? No, sai che non è così. Come no? In tutti i paesi è così. No, per esempio in Francia, no? Se tu compi 18 anni ma dopo questo l'ha il detto, primo me l'ha turno, detto pure Stumpo, ma non puoi votare al secondo. Vabbè, ho capito, ma quelli sono gli anni. Non è, cioè, se, uno... se tu non sei iscritto alla lista elettorale il giorno sì, ma solo per i 18 anni vale. Solo per i 18 anni vale. Per gli altri no. Vale che nella lista elettorale il giorno del primo turno. Ho capito. Non partecipi neanche al secondo. Sì, però riguarda l'età. Riguarda l'età quella cosa lì. Ma in tutte le elezioni si definisce un corpo elettorale. Vabbè, è una cosa per fregare Renzi, su, no, diciamo. Ha ragione lei. È una cosa per fregare Renzi. Per quale motivo dovrebbe essere una cosa per fregare? Perché Renzi? Perché volete limitare il numero di persone, dai, che vanno a votare. No, ma dove è scritto che chi viene a votare al secondo turno vota Renzi, scusa, ma no, è una non una è detto, teoria, ma, no, no, questa, no, ma chi io non ho detto che chi va. No, uno magari vuole venire a votare al secondo turno per votare Bersani o Vendola. Ma io non ho detto che chi va a votare al secondo turno va a votare sicuramente Renzi. Io dico devi dire che è un trucco. Scusa, è una cosa anche offensiva. È un trucco. Beh, sarò padrone di dire che è un trucco. Secondo me è un trucco per limitare la possibilità di una vittoria di Renzi. No, sono convinto di questo. Infatti, non è così. È una decisione che poi prenderà. Renzi dice che non si fida più di Bersani. E che si fidava in questa intervista a Panorama. Se non si è fidato di Bersani, no, però le regole. Dice che è deluso. Non dice che non è deluso dalle regole, però. Dalle regole. Vabbè, pazienza, perché poi sai, bisogna anche un po' adattarsi quando si fa una competizione. Tutti beh, lo decidono gli altri però, i suoi competitor. Gli altri chi? Beh, gli altri chi? Beh, la maggior parte di quelli che votano a Bersani lo non ha deciso. Deciso a maggioranza no, il Partito questa cosa Democratico del questa votando cosa... come si fa in democrazia. Sì. Nell'assemblea del PD ci sono anche persone che sostengono questo Renzi, dettaglio ma no. Quelli che... No, anche questo dettaglio. Sul secondo turno? Sì, comunque sì. A maggioranza i bersaniani diciamo. Sì. sai, a maggioranza nella democrazia, no, no, va bene. Sì, sì, per carità. Sì, sì, no. 30 secondi, torniamo subito. Non c'è? Non ci sono i 30 secondi? Che ne so, ma avete scritto che ci sono i 30 secondi? Vabbè, ogni tanto succede. E oggi però, sempre in questa intervista... Ma c'è ragione la Geloni su questo. Vabbè, l'abbiamo già discusso su questo. Sempre in questa intervista a Panorama, Renzi dice una cosa, che Bersani deve mettere online le spese degli ultimi anni, facendo un paragone con Fierito. Questo è abbastanza pesante però. Pesantino, vero? Anche perché le spese di tutti i dirigenti del PD sono già online da quando... Le fatture degli ultimi tre anni dei suoi dirigenti. Tutti i bilanci del PD sono online sul sito del PD. E perché l'ha detto allora? Facendo questo paragone con Fiorito. Questo sai, bisogna chiederlo a lui. Tu ci credi che... Beh, come giudichi questa cosa allora? È offensiva? Sì, abbastanza. Offensiva. Soprattutto il paragone con Fiorito mi sembra abbastanza offensivo. No, 200... Però è legittimo che si chieda... Ma lei dice che sono già online. Renzi vada a consultare internet, dice lei, per sapere quanto hanno speso i dirigenti negli ultimi tre anni. Non credo che ci siano. Il suo partito di Renzi. Sì. Ma è ancora il suo partito? È ancora il suo partito? Ma mica sta intervistando Renzi. No, secondo lei è ancora il suo partito? Sì, secondo me sì. E quindi dovrebbe sapere che c'è una sezione trasparenza nel sito del PD. Dove ci sono tutti i bilanci certificati da una società esterna e poi resi pubblici sul sito del PD. Ma 250.000 euro, lei ci crede che la campagna di Renzi costerà tanto? La campagna di Renzi costa tanto. No, che costerà lunga, 250.000 poi. Euro. Ci crede? Prima. Ma io non me ne intendo di numeri. Più o meno, ci crede non o no? Non saprei dire. Non saprebbe dire, No. Stefano, provincia di Catania, grazie a Chiara Geloni di essere stata con noi. Buona serata. Lei si vuole candidare in Parlamento, signora Geloni? No, sono sicuro? Io sono una giornalista. Sicuro? Non è che i giornalisti non si possono candidare. A volte capita. Capita spesso anche. Lei non ci dice qui che non si candida. No, lei mi ha chiesto se mi voglio candidare. Vabbè, adesso non faccia la cosa che glielo chiedono. Non è quello il punto. Avrebbe desiderio, avrebbe piacere a stare in Parlamento? Non sì è o no? Tra le mie aspirazioni. Allora, lei ci può dire che non sarà mai in parlamento nel prossimo parlamento, no, che non ci sarà? Io glielo dico. Può darsi che anche che succeda nella vita succedono. Ho capito, cose. Ma non vedo perché dovrei prendere impegni con non voi, giriamo non so ma no, impegni ma le con hanno no. Chiesto di candidarsi o no? Qualcuno le ha chiesto di candidarsi o no? Se nessuno. Lo aspetta o no? No. Non se lo aspetta, no. Però non lo esclude. No. Non lo esclude. È possibile dunque che succeda? È possibile. Lo saprei fare se capitasse di doverlo fare. No, ma però lo vuole fare, è anche una sua aspirazione, perché uno non lo deve dire? Non è così. Non è così. Mi piace di più fare la giornalista. Ma che vuol fare tutta la vita? Adesso non è che fa. Non è, sì, infatti, non è che uno può rimanere tutta la vita. No, questo sarà difficile, effettivamente. Cioè, tra fare tutta la vita. Dovrà decidere cosa fare da grande prima. Ma no, ma ho capito, ma tra fare tutta la vita. Insomma, lei vuole fare il parlamentare, questa è la realtà. Le piacerebbe molto fare il parlamentare. Non ce lo vuole dire, ma le piacerebbe molto fare il parlamentare. Non è così. Ma non è così, vabbè, comunque finirà in Parlamento. Quanto vogliamo scommettere? Oggi che giorno? 19:50 del che giorno diavolo di giorno? 17, non è un bel giorno, ma comunque. Allora, quando ci risentiamo? Quando ci saranno le liste. Allora, faccio una cosa: dico una cosa: se qualcuno mi vuole candidare, voglio prendere le preferenze, non voglio stare nei listini bloccati. Se ci saranno le preferenze, almeno questo. Neanche, ma scusi tanto, ma perché devo dire una cosa? Cioè, lei è contro il Porcellum, ma contro le liste bloccate? Io sono contro le preferenze. In un collegio, diciamo in un collegio. Sicuramente non voglio stare nelle liste bloccate, o no? No, benissimo. Mi basta questo. Non lo dico. Ah, non lo dice? No, non lo dico. Vabbè, però insomma. Almeno dica sono pronta. Arrivederci. Ma perché arrivederci? Perché non si vuole esporre allora, su questo. Aspetta, comunque ho aperto il sito trasparenza. No, dimmi di crolla. Noi amo il cellulare di crolla. No, crolla. Adesso crolla, lo cucino io. Allora, io voglio dire una cosa. Ti immagini di immaginarti la scena. Ieri alle 3 c'è il dibattito Romney-Obama. Sì. Stamattina, con il mostro, consulto le agenzie, consulto l'ANSA, e mi trovo dinanzi agli occhi alle ore 9:08 una dichiarazione del deputato l'onorevole Simone Crolla del PDL, il quale, aperte virgolette, dichiara: Obama si assume la responsabilità di Bengasi. Però io vorrei leggerla tutta perché è molto articolata. Leggi. Righe, se lei mi permette, signor Cruciani. Dichiara il signor Crolla, pur non volendo esprimere un'opinione su chi abbia meglio affrontato il secondo dibattito presidenziale. Un dato emerso dalla sfida mi ha colpito: l'assunzione di responsabilità da parte del presidente Obama per quanto riguarda i fatti accaduti a Bengasi, che hanno visto l'uccisione dell'ambasciatore Stevens. Allora, io voglio dire semplicemente una cosa. Se uno manda alle agenzie un comunicato in cui crolla, ripeto, crolla, dice Obama si assume la responsabilità di Benghazi, io immagino la faccia del signor Obama che, commentando il risultato del dibattito con il signor Romney, è chiuso dell'ufficio, nella stanza ovale della Casa Bianca, a un certo punto arriva un zelante funzionario che bussa, così bussa. Yes, please, dice il presidente. Quindi il funzionario entra con l'agenzia di cose. What happened? Gli chiede Obama. Oh, Mr. Obama, Mr. President, Mr. Crolla in Italy says that you are not good in Benghazi. Cioè, capite? Dice Obama, capito? Vivere è passato tanto tempo. Vivere è un ricordo senza tempo. Vivere è un po' come perdere tempo. Vivere e sorridere. Beh, io ho trovato l'inno per il partito di Emilio Fede. L'ho trovato, Emilio, te lo consiglio. Metti questo il 25 novembre alle 11 al Teatro San Babile di Milano e accorrete numerosi. Emilio, ciao. Ciao, guarda, no, non ciao, è un partito politico, è un movimento di opinione. Vabbè, non uguale, avrei la presunzione di fare un partito politico, non ce la farei. Ma scusa, l'hai detto, un movimento politico che si presenta alle elezioni, certo. Più di questo? Sì, no, no, certo, un movimento politico, sì, questo è vero. Ma sì, un partito, dico, vabbè, per modo di dire, è chiaro che non vuoi fare un partito strutturato, mi pare evidente. No. Scusa, ma scegli veramente questa cosa, vivere di Vasco Rossi come colonna sonora? Te lo consiglio, diventiamo i tuoi consiglieri occulti. Magari, guarda siete stati anche i miei detrattori. No, detrattori no. No, detrattori dire. No. Ma voi fate il vostro mestiere. No, ma scusami, direttore, perché non lanciamo il giorno che fai il tuo proclama una sorta di strategia della tensione? In che senso, scusa? No, nel senso che Emilio Fede scende in campo, cioè prepariamo proprio una campagna pubblicitaria con i manifesti, andiamo casa per casa, strada per strada. Siete gentili, anche perché io non avrei lavoro. Io metterò dei manifesti. Ma quanti soldi ci metti in questa città? Perché, come? Quanti soldi vuoi spendere per Vogliamo Vivere? Così, all'inizio, all'inizio. Vuoi sapere? Dimmi. Quanto penso di poter spendere e far ridere nel suo insieme? Spenderò, guarda, poco per i manifesti, non farò i volantini. Sì, l'affitto del teatro. Ho trovato un teatro, il San Babila, a Milano, devo dire, ad un prezzo accessibile. Sì. In tutto? Di Berlusconi, credo. Come? In tutto? Ma guarda, penso che per tutta la campagna elettorale forse mi costerà 50.000 euro, forse. 50.000 euro fino al 25 novembre o per tutta la campagna elettorale? No, no, no, io parlo di ma non bastano questi soldi? Tutta, no, no, di tutta la campagna, fa ridere, lo so. Ma Berlusconi una mano te li darà con i soldi? Come? Una mano Berlusconi te la darà con i soldi? No, assolutamente no, ma anzi voglio dire una cosa, guarda, ti ringrazio che mi hai dato l'occasione. Sì. Io ho detto, non accetterò neanche un euro di sostegno esterno, perché non voglio assolutamente che nessuno possa in qualche modo... Dunque, 50.000 euro tutti tuoi? Cioè, guarda, a rate. Una banca, no, ma certo, mutuo. Per carità. A rate. Un altro mutuo, no, basta. No, beh, ce l'ho già appunto abbastanza. Dico, comunque faccio un mutuo per fare politica, questo non è male. Guarda, ti posso dire, io speravo di fare questo potendo fare utilizzare il fondo... Eccoci qui alle 20 con Emilio Fede, l'ex direttore del TG4, leader di Vogliamo Vivere, leader, insomma, non esageriamo, insomma, leader di Vogliamo Vivere. Sai chi c'è? Mitico Pizza qua, Parezzo, senti. Chi è che c'è? No, c'è il Mitico Pizza che abbiamo incontrato l'onorevole Crolla. No, Crolla, adesso lo chiamiamo, non ti preoccupare. Adesso lo chiamiamo, non ti preoccupare, lo chiamiamo. Ha sentito anche il mostro dicendo, insomma, che il primary contest. Adesso lo chiamiamo. Tu Emilio, non capisci il primary contest. Eccoci qua. Allora, volevi dire io, prima sui soldi che metti nel movimento, 50.000 perché No, i soldi che io pensavo di cioè la verità è che quasi tutti mi aiutano nel teatro, le cose, chi stampa i manifesti, quasi gratis. Io ho pensato che una cosa importante, cari amici, vedendo oggi i dati sull'economia, sulla povertà, allora? Io vi assicuro che ho provato un grande brivido. Allora? A pensare che è aumentato di 33% il numero delle famiglie che hanno sanno più come mangiare, si però, direttore, scusa, alla Caritas. E allora? La mia proposta, la cosa che farò io, il primo punto, è qual è? Tenterò di aiutare con 1.000 euro al mese alcune delle famiglie più povere. Cioè? E questo, cioè? Ma certo, aiutarle a vivere. Cioè, darai 1.000 euro al mese? Sì, signore, cercherò 4. E chi te li dai i soldi? Dei tuoi, dici? Come? Dei tuoi. Miei soldi. Darò 1.000 euro al mese a quante famiglie, scusa? No, 1.000 euro ad ogni famiglia. A cioè, quante famiglie? Darò 5 famiglie, perché aver visto le persone, marito, moglie, cioè famiglie, sì, intere, che vanno alla Caritas in coda per un piatto di, cioè, caldo. Vuoi spendere 5.000 euro al mese per darlo a 5 famiglie? Questa è la sostanza. Sì, signore, assolutamente. Ma questa, sì, è una grande proposta. È una grande proposta che dovrebbe valere, quella che farò quando, sì, parlerò alla gente. Dovrebbero fare tutti quelli che sono oltre una certa soglia di guadagno. Eh beh, e tu, come sappiamo, come sappiamo, famiglie, perché un paese civile. Però scusami, Emilio, non è Monti, lasciamelo dire, della, sì, parte di Monti, sì, un paese non si può consentire che, sì, ci siano intere famiglie che sono, certo, in coda per un piatto caldo. Noi dobbiamo vergognarci. E il secondo, al di là, punto, delle questioni politiche, io offro 5.000 euro al mese, 1.000, a 5 famiglie. Io, ma dovrebbe fare così chiunque. Ma come fai a scegliere queste 5 famiglie? Beh, cercherò attraverso la Caritas, mi rivolgo alla Caritas, perché sono con la Caritas che più hanno bisogno, 33% in più, e noi siamo ancora a bagattare. Parenzo dice che è carità. Ma no, ma Emilio, scusami, direttore, anzi, onorevole Fede, ma è una cosa. Ma ancora non è onorevole. Ma no, ma lascia perdere, io non sarò mai onorevole. Ma che ne sai? Ma fai carità, non occorre che ti candidi. Se vuoi dare 5.000 euro a una famiglia, lo puoi fare senza candidarti. Ma non sono, non mi sono spiegato. Io non mi candido, è un movimento di opinione, vuol dire che tento, faccio il mestiere di giornalista, opinionista. Vabbè, ho capito, come ma ti candiderai, voglio, no? Ti candiderai, aiutare, no? E voglio riprendere il colloquio interrotto così la sera del 28 marzo con tutta quella gente che mi è rimasta affezionata, e sono le persone, voglio occuparmi delle casalinghe, voglio occuparmi delle persone che non arrivano alla fine del mese. Oggi ho visto i dati, sì, che sono raccapriccianti. Però io, scusa, Emilio, io mi sono, ti sei vergognato di guadagnare così tanto? Mi sono vergognato di avere una casa, va bene, di avere tutto quello che mi serve per vivere bene, e allora ho deciso, cioè, che mi vergogno dei 20.000 euro al mese, dici? Ascoltami, sì, e questo è l'invito che faccio a tutti, sì, coloro che hanno più di un certo reddito anno, sì, va bene, a fare la stessa cosa. Adottate, è brutto il termine, una, vabbè, famiglia, perché non è possibile pensare che c'è un'intera famiglia, anche dei bambini, che vanno in coda alla Caritas per un piatto caldo. Questo, ma non ti è sei vergognato del tuo reddito, ti sei vergognato del tuo reddito, dei famosi 20.000 al mese, ma tutta questa roba? 20.000 al mese, che poi non sono mai stati 20.000. Vabbè, al mese, quello che è, io quello sono che uscito, è, lascia perdere, abbiamo fatto, no, un discorso inutile, ascoltando queste persone, sentendo queste persone, sono uscito, lo sono ancora, ho un contratto dignitoso, ci mancherebbe altro. Ma perché non ti fanno lavorare? Non ho perché avuto un euro di buona uscita, come giusto che sia. Ma perché non ti fanno lavorare, scusa, ancora? C'hai un'altra domanda di riserva? Ah, ecco, questa è bella, ritorna. Però io sono tutti i giorni nel mio ufficio, tutti i giorni lavoro, preparo proposte, che di programmi. Queste proposte non le accettano, però. Come? Come mai non le accettano queste proposte? Vabbè. Né sì né no, stanno riflettendo. Stanno riflettendo. Ma quanto riflettono? E quanto riflettono, Emilio? Non lo so. Ma questo, guarda, vabbè, è normale passato. Questo. È voglio normale. Dire, io ho vissuto un periodo drammatico della mia vita, sì, alla mia età. La storia della valigetta è quasi ormai un fatto archiviato, risulta essere stata soltanto... Poi c'è Ruby, c'è la vicenda di Ruby. È stata soltanto una lettera anonima, su una lettera anonima io, sì, ho avuto rovinata la mia immagine, ma, sì, non tanto. C'è Ruby, è stato dimostrato, l'hanno detto, non l'ho portato io. Chi l'ha portata? Quindi voglio dire, io... Chi l'ha portata sta Ruby? Beh, l'hanno detto, è stato dichiarato, l'ha dichiarato lo stesso Lele Mora ha detto che è arrivata a Milano attraverso lui e che lui l'ha invitata ad Arcore. Cioè l'ha portata Lele Mora, dici? Come? L'ha portata Lele Mora, sta Ruby. L'ha detto Lele Mora. Ma tu, anche tu sei convinto che era la nipote di Mubarak, no? No, io non ho mai saputo questa storia di Mubarak, sapevo, questo sì, lei si era dichiarata nella famosa serata di Le Troiani, sì, che era una ragazza egiziana. Vabbè, ma ho capito, ma la cosa di Mubarak non l'hai mai sentita. Come? La storia di Mubarak non l'hai mai sentita. L'ho sentita quando l'ha raccontata Berlusconi più volte. Ma non ci hai mai creduto? Non ci hai mai creduto? No, che c'entro, non ci ho creduto, perché non devo credere? Ma dai, su, la nipote di Mubarak. Perché secondo te la nipote di Mubarak? Scusa, perché non la nipote? Ma no, ma voglio dire... Cioè, ma secondo te Berlusconi pensava che fosse la nipote di Mubarak? Silvio Berlusconi. Dai Emilio, è una persona intelligente, tu mica sei... Ma io non sono un cretino e sono però anche una persona onesta. Ma scusami, okay, direttore, però ritengo... Se io ti presento una bella figa e ti dico che è la nipote di Gordon Brown, mica ci credi, no? E perché? È proibito? Come deve essere? Ma perché secondo te io conosco la nipote di Gordon Brown? Ti dico, direttore, guarda, c'è qui una bella figa bionda, eh? È la nipote di Gordon Brown. Dice, come Gordon? Come vai? Dai, su, Emilio, sei una persona intelligente. È incredibile, no? No, vi posso dire, io rapidamente, un giorno a Perugia, recentemente mi si avvicina un gruppo familiare, due persone di età, una di più giovane e una ragazza anche molto carina. Chiedono di fare le fotografie con me, eccetera, eccetera. Poi io chiedo chi siete, siete sì, dice no, marocchini, due che siamo venuti in Italia per un viaggio. Questa ragazza è la nipote del ministro degli esteri del Marocco. Dico, oddio no, per carità. Eppure era la nipote. Vabbè, ho del capito. Ministro tu, hai, tu pensi veramente che Berlusconi fosse convinto che era la nipote di Mubarak? Dai, Emilio, pure io, tu. Io ci metto la mano sul fuoco. Ma dai, su. Vabbè, scusate, ma perché non potete? Ma perché non è possibile, se la sono inventata gli avvocati, su, dai Emilio, dai, ma non era, non può essere che Berlusconi era convinto di una cosa del genere, pure tu, dai. Ma era, no, io scusa, l'ho vista due volte, no, ma io l'ho vista quella volta e si è dichiarata, no, aspetta. Che si è dichiarata? Ha letto Ianni, l'ho saputo, ha letto Ianni, l'altro giorno, che quello che ha organizzato sta accidenti di serata ha letto maledetta Ianni, ha detto, ha confermato che quando è stata presentata, io facevo la giuria, io ho detto questa ragazza egiziana, lei si era presentata vabbè come... lascia perdere la ragazza egiziana, non è che tutti gli egiziani sono nipoti di Mubarak. No, vabbè, che c'entra, tutti sono nipoti di Gordon Brown o come dici tu o di Hollande. Vabbè, comunque tu credi in Berlusconi, anche su questo credi in Berlusconi. Vabbè. Io credo nella verità. Beh, non verità, mi sono sai. Mai presentato neanche. Senti, ma la rottamazione di D'Alema, la rottamazione di D'Alema, com'è? La cosa, che cosa? La rottamazione di D'Alema, come la trovi? Ma è una parola. Guarda, io non accetto questo termine. Io stimo D'Alema, lo conosco, ho sempre avuto rapporti con lui. Trovo vergognoso che un uomo che è stato un leader, certamente simpatico, non simpatico, a conoscerlo è anche simpatico, si possa parlare di rottamazione. Cioè tu lo vorresti ancora in Parlamento? Devo dire che a me questo Matteo Renzi mi rompe un po' le palle. Non si parla di... sto vedendo in questo momento che voi parlate, Massimo D'Alema qui in televisione, cioè, il servizio... È un grande D'Alema per te, no? Per me sì. È un grande, Per me sì. Tu lo vorresti anche Presidente della Repubblica, che ne so? Se ne è parlato perché, per un po'. Se ne era parlato, attenzione, perché lei... Sì, come no, me lo ricordo, lo voleva anche Berlusconi, no? Nella vigilia dell'elezione di Napolitano, me lo ricordo. Uno dei candidati era D'Alema. Per te lo potrebbe fare? Per me lo potrebbe fare ancora domani. Ma perché non lo candidi tu con Vogliamo Vivere? Può essere non lo Vogliamo Vivere, guarda, credetemi, io non ho la forza. Ma no, ma perché adesso, non lo dico, perché non lo candidi tu per Vogliamo Vivere? Fai un appello, cioè se il PD non ti vuole, prendilo tu. Guarda, io ti posso assicurare e mi impegno che il 25 di novembre alle 11 all'hotel in piazza San Babila io dirò certamente sì, perché tutto so, poi voi cioè parliamo, sì a che cosa, scusa posso dire una sì cosa? A che cosa? Posso, fatemi dire. No, però su D'Alema, scusami Emilio, che voglio dirò interessante. Che è una persona che meriterebbe di diventare capo scade il settennato di Napolitano e perché no D'Alema. Poi, ma scusa, perché D'Alema non in Vogliamo Vivere? Candidato nel tuo movimento, scusa, ma perché nel no? Nel mio movimento non pretendo che venga D'Alema nel mio movimento. Beh, scusa, hai detto Saviano. Sai chi sul palco con me ci sarà? Una casalinga, un tassista, un operaio, ma senza fare retorica. Vabbè, un nome, dici un nome. Un nome non di un operaio, eccetera, va bene, va benissimo, per carità. Un nome di una persona che vorresti con te. Una persona che vorrei con me quel giorno lì, ma non ti saprei dire perché non è... Una persona a cui tieni tanto, che dice lo voglio coinvolgere nel mio progetto. Con Falonieri. Beh, con Falonieri l'altra volta me l'avete tagliato. Vabbè, ma con Falonieri non viene. Con Falonieri potrebbe essere, ma non viene con Falonieri con me. Non e viene, poi d'altra dai. Parte verrebbe fuori un problema di partito che io non voglio. Vedi, voi non potete crederci, non ha importanza, ma vi assicuro. Ma che Berlusconi modo... che ti ha detto su sta cosa qua? Chi? Berlusconi, su Vogliamo Vivere, che ti ha detto? Allora, posso, tanto voi non ci credete, non ha importanza. No, come non ci crediamo? A Berlusconi non ho detto niente prima. Poi mi è capitato di parlarne e ho detto, sai, ho avuto quest'idea, lui ha guardato il logo, ho detto, beh, è una buona idea. È una buona idea, però te l'ha detto così, giusto per così. Credo che me l'abbia detto più per non dispiacermi. Però Beh, è bello, tornare a parlare con Fede è sempre bello. No, scusa, ma quanti sondaggisti che ti dicono? Allora, io ho commissionato i sondaggi. Che ti dicono? Ad un istituto. Beh, hai speso un sacco di soldi allora. Mannheimer, ho pregato di dirmi nord, centro, sud. E che ti ha detto Mannheimer? Quanto si è fatto pagare? Ancora non mi ha dato una. Quanto si è fatto pagare, signor Mannheimer? No, Mannheimer, guarda, me lo fa per amicizia. Ah, per amicizia. Per amicizia. È uscito, non richiesto da me, era uscito sì. Piepoli, dando un sondaggio tipo il 2, ma non è un... Ma vedi, io non... Il 2%. Guarda, dici. Posso dirvi una cosa? No, il 2 l'anno prossimo. 2 è tanto. L'anno . Prossimo, al compimento che sono tanti, sì. Gli 82 anni, sì. Se dovessi mai essere eletto, sì. Che fai? Sarei quello che... sarei chiamato a fare, cioè? Il senatore, il deputato, sì, quello che è. Ma altrimenti io lascio Mediaset, ormai sono stanco, voglio vivere, cioè non ho capito, se entro in Parlamento lascio Mediaset? No, se io sono chiamato in Parlamento certamente svolgerò il mio compito e lasci Mediaset, lo farò con amore, ma siccome io sono nato giornalista, voglio morire giornalista, se non sarò eletto, come sì. È facile sì. Che io non sia eletto, lascerò Mediaset. Ah, no, lasci comunque Mediaset. Sì, lascio comunque, perché sai perché? Perché? Perché voglio vivere anch'io. Voglio vivere anch'io. Oh, guarda, questo è un annuncio, cioè rinunci a questo contratto che hai firmato comunque a giugno dell'anno prossimo? Ma guarda che è un contratto di 3 anni. Vabbè, ma ho capito, tu a giugno... attenzione. No, ma ho capito. È un contratto di consulenza. Ho capito bene, dunque la cosa è questa. Tu a giugno del 2013 rescindi comunque questo contratto. Lo interrompi. Io ho detto da qui ad un anno, se sarò eletto da qui ad un anno. Vabbè, se sarò e se non sei eletto? Naturalmente andrò con gioia in Parlamento. E se non sei eletto? Altrimenti io lascio Mediaset, ringrazio e vado a vivere la mia vita serena. Se non dove vai? La famiglia dove? Che ho e che amo, me ne andrei a vivere in Africa lontano da tutto. Però come io del troppo? Ho delle figlie, ho dei nipoti, certo. E basta, e vivrò questa vita. Ho vissuto tutto, la vita. Scusami, Emilio, tutto. Però io dovrei fare commentare una cosa prima di lasciarti. Una cosa secondo me assurda. Sì, Bonolis, il signor Bonolis, lo sai che ha detto oggi? Lo conosci bene, Bonolis, immagino, sì, no? Vabbè, sì, certo. Sì, dice Berlusconi ha rintontito gli italiani, così ha detto, ti giuro, ha rincoglionito gli italiani, ha stordito il paese. Guarda, Davide Parenzo, giornalista, cioè, guarda, sto vedendo che cosa sta andando in onda, qualcosa che vi riguarda anche. Può essere, sì. Allora, scusa, voglio dire questo. No, di qualcosa a Bonolis. Io Bonolis, guarda, non lo so, fanno le battute, guarda, non è... Ingrato. Ci sono tante ingrato. Cose, guarda, credetemi, siate dalla mia parte. Ha rimbambito gli italiani, ha detto ha rimbambito gli italiani. Ma questo paese può stare alle battute, ma il fatto che Grillo attraversi lo stretto di Messina, ma che cazzo gliene frega la gente? A quelli che stanno lì in coda per avere un piatto caldo, che cosa gliene frega di Grillo? Oppure di Bonolis ha detto che Berlusconi ha rimbambito gli italiani. Matteo Renzi, anziché spendere quello che spende e quanto spende, che deve va bene, per fare le primarie, ma anche lui faccia come farò io da domani, aiuti le famiglie povere, ma tu hai detto... e non rompa i coglioni, e rompa i coglioni a voler primeggiare, che tanto voglio dire, il capo del governo uno con quella faccia non diventa mai. E perché? Ma perché faccia? Perché? Faccia fa ridere. Ah, lei perché troppo sembra... Ma no, ma non è... Cioè, è uno intelligente, indubbiamente, ma basta. E poi basta con questa mania di considerare che persone anziane siano da rottamare. Cominciamo a rottamare lui, che sta facendo spendere e spenderà un sacco di soldi. E ci spieghi lui dove le ha presi questi soldi. Vabbè, ma questo glielo dice pure il Partito Democratico, è D'Alema, gliel'ha chiesto, altri, eccetera. Scusami, però qualcosa su Bonolis la devi dire, che Berlusconi... Ma io non l'ho sentita questa cosa, se lui ha detto... rintontito allora, gli italiani, se lui così. Ha detto una cosa di questo genere, ha voluto fare una battuta gli è venuta male, va bene, rintontito, forse lo sarà lui, ma che Berlusconi sia rintontito, ma al di là della mia... No, che ha rintontito, rintontito. Non è più un problema, il mio rapporto con Berlusconi non è più un problema di dire sono con Berlusconi o non sono con Berlusconi, certo. No, lo so, ma Bonolis ha detto ha rintontito gli italiani, tu dici ha rintontito lui. No, è rintontito lui, ma lui voleva dire io sono un rintontito che sto rintontendo gli italiani. Ecco, ha contribuito anche lui. La cosa ha contribuito questo anche è un lui. Gioco. Fatemi dire, è un gioco inutile, ma nel confronto di Berlusconi si candida, non si candida. Ma poi, tra l'altro, ha detto: io da Mediaset non me ne vado perché guadagno di più. Potrei andare a Sky, ma guadagno di meno. Invece, Mediaset... chi? Bonolis. E chiedetegli quanto guadagna Bonolis e chiedetegli quanto guadagnano tutti quanti questi signori che stanno lì. E che fa, guarda, credimi, quel giorno del 28 del 25, quanto guadagna, chi è che guadagna più di te? Io, a Mediaset, la prima cosa che proporrò a Mediaset: quanta gente guadagna più di te? Non si può consentire più in questo paese che ci sia la gente in coda, intere famiglie per avere un piatto caldo. Quanta gente guadagna più di te? Quello attraverso lo stretto di... Punge e poi fugge. Eccoci qui alle 20:20, 800 24 0024, dopo l'esplua di Emilio Fede alla Zanzara, in cui dice che vuole utilizzare parte dei suoi soldi, 5.000 euro al mese, per darlo ai poveri. Caro Parenzo, inizia anche tu, che sei il finto comunista, su, che ti cibi a formaggi, a pasteggi a champagne, eccetera. Ma... inizia anche tu a dare una parte del tuo stipendio ai poveri, agli operai che vai a intervistare. Dai una parte del tuo stipendio agli operai. Intanto, se non dire stupidaggi, se io devo aiutare qualcuno lo aiuto, e certamente non vengo a dirlo alla radio facendo il canassa, quel canassa, come dicono a Milano, questo è certo. Dai, dopodiché, su, inizia, se io anche, tanto tu, mi inizia concedo, anche tu. Se io ogni tanto mi concedo, lo devo dire a te, se io ogni tanto mi concedo un assiette di formaggio, non penso che sia un crimine. Comunque adesso inizia, c'è un anche ospite. Tu, inizia anche tu a dare un po' di soldi. Ma non do. A dare un po' di soldi, ma come cosa, vuole fare Fede. Fai cosa, il vero comunista fino in fondo, fai l'uomo di sinistra fino in fondo. Guarda che le cose, i comunisti dicevano che la realtà sociale va cambiata con la buona politica, non con la carità. Ma non fare quella il filosofo pura, adesso. Quella è pura carità. Comunque non c'è fare un il filosofo adesso in collegamento, te lo dico io. Chi è? È un ospite che ho scelto io, una persona molto per bene. Chi si è? Chiama Salvatore da Roma. E chi è? È un intellettuale. E ci vuole un po' di cultura, ha detto questa trasmissione, bisogna smetterla. Ma chi è questo Salvatore? No, scusa, spiegami. Salvatore da Roma, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora, Salvatore da Roma è un intellettuale. Ma che ne sai tu? Lo so, è un signore che ha scritto un libro dal titolo Filosofia del gatto. Come allora, filosofia del gatto? Sì. È un libro meraviglioso, Filosofia del gatto. Scusi, Salvatore, a parte come fai a saperlo? Comunque, Salvatore, dica. No, visto che siamo in tema di rottamazione, politici che devono rimanere o no, sì, potrebbe sì. essere interessante provare a leggere questa dicotomia rispetto alla passione per i cani o passione per i gatti. Cioè, per mi esempio. Spieghi un po', perché Parenzo è matto, dunque non capisco che cosa combina. Salvatore? Dica, Salvatore, avanti. Ho scritto questo libro appunto sulla filosofia del gatto, nel quale si cerca di interpretare il senso sì. che ha la presenza del gatto per le persone che lo hanno in casa sì. e provando a sviluppare una parte del testo si potrebbe provare a ragionare come sì. alcuni politici hanno inclinazioni verso i cani, e questo significa una maggiore D'Alema, mi sembra, D'Alema, per mi esempio sembra. D'Alema. E invece, per rimanere in tema di qualcosa che è assolutamente attuale, Beltroni, da quel che mi risulta, ha in famiglia un gatto sì. e quindi ha in qualche modo fatto questa scelta un po' più libertaria di sottrarsi a quello che è il mantenimento della poltrona. Vabbè, insomma, siamo alla punturina quella però, vera qua, signor, ma che punturina? Salvatore, a Patriarca, ha scritto il libro Filosofia del gatto e volevo dedicare qualche minuto ad analizzare il gatto. No, ma a me non me ne frega niente. Salvatore, cosa significa che D'Alema ha un cane e Beltroni un gatto, secondo lei? Diciamo che D'Alema tende molto di più a essere in qualche sì. modo fedele e quindi avere un senso di leadership più forte. Chi ha Beltroni? Un gatto invece, per esempio Beltroni, e tende più a modificare la propria opinione, il proprio punto di vista, a essere un po' più libertario, un po' più svolazzante da un certo punto di vista. Poi le due carriere... Perché il gatto è infedele per natura, capito? Sì, vabbè, il gatto siamo, si gonfia la coda. Siamo alla banalità più totale. Grazie, Salvatore. No, Marco Salvatore. Dalla provincia di Arezzo. Perché hai liquidato i miei perché lo voglio liquidare. Così. Marco dalla provincia di Arezzo. I miei ospiti così. Marco dalla provincia di Arezzo. Adesso ti presento un intellettuale che è qui accanto a me. Oh, finalmente abbiamo Glucksmann. Molto bene. Marco dalla provincia di Arezzo. Bene, benissimo, finalmente. Sai il livello questa trasmissione? L'ha detto in tanti. Marco, dica. Marco, Cosmo da Milano. Mi sente? Sì, dica Cosmo. Negare la candidatura ai condannati è un atto di demagogia sì. sommamente ipocrita ma questo è matto, a danno sì. dei cittadini elettori sì. resi incapaci di conoscere il significato della sì. parola democrazia. Ma questo è il matto che chiamo ogni tanto, sì. Democrazia sopra ogni cosa. Sì, questo continua a parlare anche se uno... Perciò se gli elettori, il popolo sceglie anche vabbè, un abbassiamo il volume, tanto continua questo. Sì, Stefano dalla provincia di Catania. Bisogno di parlare. Poi. Pronto? Sì, dica Stefano. Sì, buonasera. Intanto parola d'ordine nei confronti di Parenzo. Affamiamo la bestia. Questa è la parola d'ordine ormai. Questa deve essere... l'inizio di ogni telefonata, famiamo la bestia. Volevo dire una cosa, io non so se ieri sera o avantieri sera alla trasmissione di Del Debbio, Quinta Colonna, sì. c'è stato un intervento dell'onorevole Barbato dell'IDV nei sì. confronti di Trafiletti. Però c'è una precisazione da fare, come al solito Parenzo non ha capito nulla, Crolla, che è responsabile della Camera di Commercio Italo-Americana a Milano, del PDL, non ha detto Obama si assuma la responsabilità. C'è il titolo, ce l'ho qui. No, lo si assume la responsabilità di Bengasi, in Italia non succederebbe. Sì. Si assume, non si assuma, non è che intima a Obama di assumersi la responsabilità. Certo. Obama si assume la responsabilità. Cioè, ma di che stai parlando? Pur non volendo esprimere un'opinione, abbia meglio affrontato il Sì. Obama si assume la responsabilità, in Italia non succederebbe. Ho capito, ma non è che è andato addosso a Obama dicendo si assuma la responsabilità, ha detto si assume la responsabilità. L'ho letto prima. Ho capito, ma tu hai detto che... Vabbè, ne continui a difendere Crolla. Ma non c'è niente da attaccarlo, però. Come l'hai presentata tu, scusa, David, però hai presentato la cosa come se lui avesse scritto si assuma la responsabilità. In realtà non ha detto si assuma la responsabilità. Hai detto una stronzata? Vergognati e chiedi scusa. Vergognati e chiedi scusa. Vergognati e chiedi scusa. Non devo chiedere scusa a nessuno. Devo semplicemente... Devi chiedere scusa perché non hai controllato bene e hai letto male. Devo scusarmi con le autorità americane se abbiamo tirato in ballo il presidente Obama. Ma no, ma tu l'hai tirato in ballo, Crolla, su una cosa che non ha detto, perché ha detto si assuma, ma invece ha detto si assume. Ha detto si assume la responsabilità di Bengasi. Ce l'ho qui davanti. Ma non ha detto si assuma. Si assume. E allora si assume non è negativo, no? No, ma mi faceva ridere il contesto che lui... Ma l'ha semplicemente espresso un'opinione di... sul dibattito, cosa che fanno... Ma c'è bisogno? Ma, cioè, io chiedo, tu l'hai messo in un altro... Bisogno. Stai cercando di uscire da una cosa in cui hai detto una stronzata e adesso non vuoi ammettere che hai detto una stronzata. Stefano dalla provincia di Catania, su. Ma figurati, ne dico tante anch'io, però dillo. Ho detto una stupidaggine, ho letto male. Stefano dalla provincia di Catania. Importante dirlo. Sarà lo champagne che apparenzo gli ma fa sì, dare. Ma ha detto una stupidaggine facendomi credere per 50 minuti che Kroll ha detto si assuma la responsabilità, intimando a Obama di assumersi la responsabilità. In realtà Kroll, deputato del PDL, ha detto un'altra cosa. Stefano dalla provincia di Catania, su, dai. Si assuma è imperativo, si assume è un dato di fatto, quindi sono due cose diverse. Comunque Barbato ha dato... No, ma è così. Tra l'altro ha anche risposto su Twitter in questo momento Simone Crolla. Dire Obama si assume è lievemente diverso. Certo. Se solo ci fossero scuole elementari di un tempo ti dà pure una bastonata dicendo che sei un po' ignorante. Guarda, devo dire... mi ha scritto anche l'avvocato Trucco in questo momento. Ma ha ragione, hai fatto Trucco una figura dice, barbina. Guarda, l'avvocato Trucco. Hai fatto una figura barbina, non ha detto si assuma, ha detto si assume, dunque hai fatto una figura barbina. Però, tu non è che poi devi essere più clemente con gli ultimi, cioè se ma uno, io non do, ma non è questione di ultimo o non ultimi. Se uno per strada zoppica, non è che gli dici ah guarda come zoppichi, quindi vergognati tu. Vergognati, ma non è vergognati. Se uno io... zoppica per strada, ho capito. Ma se sei zoppo, mica è colpa mia. Hai detto una stupidaggine. No, hai detto No. Tu sei una di quelle persone che quando vedi per strada uno che zoppica, rallenti con la macchina. Ho capito, amico mio, ma non ti posso difendere su tutto. Hai detto una stupidaggine, punto e basta. E mi ci hai fatto anche credere. Questo è il bello, che non ho controllato. Perché hai detto una cosa come recitandola come se fosse una cosa sicura. Invece mi ci hai fatto credere per 50 minuti. Meno male che qualcuno mi ha scritto dicendomi, Parenzo, ha detto una stupidaggine, perché giustamente onorevole Crolla, che controlla tutto, controlla mi hai fatto pure fare la battuta su Crolla, il PDL eccetera, era tutto sbagliato quello che hai detto, ti rendi conto o no? Danni irreversibili. Ma no, ma hai detto una stupidaggine, ammettilo, ho letto male. Ho già ammesso. Non prima. Hai ammesso nulla, ci giri intorno, ho letto male. Una ghechina. Ma non hai fatto la ghechina, hai letto male. Ti presento Alfonso Papa intanto, buonasera Papa. Buonasera. Grande intellettuale italiano. Beh, insomma. Hai capito? Non esagererei comunque. Anch'io direi. Borsa, torniamo subito. Oggi è stato accusato delle peggiori nefandezze al signor Woodcock, soprattutto di avere portato l'intera famiglia in una macchina in vacanza a giocare a calcetto. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai. Allora, la notizia è questa, sembra che Nicole Minetti si sia dimessa, ma in realtà sono le dimissioni che chiedono a tutti i consiglieri regionali della Lombardia. È vero che quelle della Minetti assumono un significato particolare, cioè Nicole Minetti avrebbe posto la sua firma nel foglio di carta che prevede le sue dimissioni, dunque finisce un po' questa telenovela con le dimissioni della Minetti, dunque sembra niente vitalizio, eccetera, eccetera. Hai capito, Parenzo? Io ho capito che adesso Simone Crolla mi segue su Twitter. Beh, certo, dopo le stronzate che hai detto, io non gli c'è ho chiesto, dubbio. Gli ho detto mi costa molto, ma le chiedo scusa. Lui mi dice pure non mi conosce, non capisco perché le costi molto, ma apprezzo. Gli ho detto io scherzo, vediamoci a cena. Beh, mangiamo scherzo. Una bella, mangiamo insieme vicino alla camera una bella colazione con dei tagliolini al tartufo, beviamoci sopra e siamo amici come prima. Ma sì, ma d'accordo, ma non c'è dubbio, però quando dici... adesso lo seguo anche su Twitter. Insomma, l'hai preso per il culo per tutta la sera, dopodiché ti aspetti... Ma no, avevo letto quel comunicato, guarda, tutto no. È stato un po' la colpa al mostro, per cui il mostro mi ha segnalato una roba... Ma chi è il mostro? Chi è il mostro? Il mostro che è dentro di me. Ah, ecco. Te lo presenterò. Ah. No, bisognerebbe collegarmi. C'è la tua volontà di fare sempre polemica. È il mostro, no, beh, il mostro è un'entità che bisognerebbe che verrà presto. È un nuovo personaggio. Anche lei della ha il mostro dentro di sé, signor Papa? Ogni tanto ha un mostro dentro di sé. Sì, lei. No, io ce l'ho alle calcagna. E chi è il mostro che ha le calcagna? È l'ex collega uditore Woodcock. Ah, perché la perseguita il signor Woodcock? È un'ossessione. Io temo che lui voglia farsi mettere anche lui sul mio stato di famiglia, perché ormai c'è una continuità familiare, gli abbiamo anche riservato, dato che lui è solo e single in questo momento, e che ne sa lei che è in cerca di fidanzate, gira per feste a Napoli in cerca di fidanzate, qualche volta le cerca anche tra le indagate, poi addirittura le cerca da questa è un'accusa gravissima che lei sta facendo, corteggia le indagate, lui corteggia però io volevo però dire scusi, non ho capito, è sicuro di questa cosa qua, lui devo dire corteggia, palpeggia o corteggia? No, corteggia perché è un galantuomo, ci mancherebbe altro, mica è come lei Parenzo. Scusi, è una persona delicata. Vabbè, adesso voglio dire, adesso ha dato approfitto perché è lontano, perché se stava in studio so che lei mi avrebbe violentemente redarguito. Però attaccalo su questo, certo. T'ha dato del delinquente. Era del molestatore, sì, vada, scusi, però scusi. Non ha tutti i problemi che ha lei, signor Parenzo. Tanto per usare, no, un argomento soft. Io non ho capito, dunque lei dice le sta le calcagna, vuole entrare nel mio stato, che c'entra che è single? Perché in questo momento è single. E dunque? E quindi, ripeto, noi abbiamo un lettino a casa, visto che è così attento ai miei figli, a mia moglie, a tutta la nostra famiglia, può trovare ospitalità presso di noi. Certo, non lo potremo ospitare nelle nostre macchine. Ah no, questo no. Però scusi, le accuse sono gravissime. Voglio leggere una cosa. Il signor Alfonso Papa, come se non avesse già altre accuse, eccetera, o altre cose, è arrivato pure sto macigno. Il servizio di accompagnamento, è scritto in questo provvedimento firmato da Woodcock, veniva effettuato in concorso e su istigazione di Papa e Rodà, perché poi accusano i finanzieri, senza che ne avessero alcun titolo e per componenti della famiglia, nonché delle amiche di Papa, amiche amanti, dicono. E questo fa parte sempre del carattere pruriginoso delle attenzioni, cioè le attribuiscono a Woodcock, che le attribuisce amanti lui che lei non ha mai avuto. Lui continua. Ma perché? Perché è così pruriginoso? Perché vuole farmi pubblicità? Perché no, perché modo... ma è molto attento alle sue, a queste cose qua. Come mai? È terribilmente attento. Io sono rimasto. Cioè, colpito, un po' malato, dice lei. Ma io sono rimasto colpito nel leggere che tra le tantissime persone interrogate nell'ambito del procedimento che mi ha riguardato, ogni persona di sesso femminile è stata fatta oggetto della domanda se aveva una relazione con me. Questo fatto mi ha colpito. Cioè, ogni volta che c'è una persona indagata vi chiede: ma lei ha avuto una relazione con Papa? Sì. Poi sono stati perché secondo lei è una fissazione, una malattia, il sesso per lui. Poi sono stati depositati gli atti, quindi ho letto tutti questi verbali, la cosa mi ha colpito. Perché è una fissazione? Questa ma cosa è una, qui è una fissazione sana, diventa difficoltosa quando viene vissuta forse in maniera patologica. Ecco. Ma lui vive il sesso in maniera patologica? Ah, questo dovremmo chiederlo a lui. Ah, ho capito. No, ma non ho capito, signor Paolo, però voglio dire, l'accusa è quella di aver portato i suoi figli con la macchina della finanza al mare o al calcetto. Lei questo ha le prove per dimostrare in particolare che... tra il 2005 e il 2008 Papa e la famiglia non accompagnati presso la casa al mare a Salto di Fondi fino al 2008 Rodà, che la moglie di Papa, veniva portata periodicamente da Napoli a Roma, nonché presso gli uffici giudiziari ove svolgeva attività forense come il Tribunale di Napoli, cioè accompagnava pure avrebbe accompagnato anche la moglie al lavoro e quello civile di Santa Maria Capovedere. Per tutti questi anni i figli sono stati accompagnati a scuola, in piscina, a calcetto nei quartieri di Posillipo e del Vomero. L'amica di Papa, Ludmilla Spornik, è andata invece a Ischia in giro per Roma, l'aeroporto di... Chi è questa Ludmilla? Ludmilla, scusi. Ma Ludmilla Spornik è un'altra figura dell'immaginario femminile. Cioè, inventata da Papa? No. Ma esiste l'Ucraina Ludmilla o no? È evidente che esiste, solo che non si capisce per quale motivo qualunque persona di sesso femminile che si rapporta con me diventa nell'immaginario del dottor Woodcock una mia amica o una mia amante. Ecco, questo è un po' il problema. È bella questa signora Ludmilla? Ma direi di no. non è bella. No, beh, allora, no. Non è stata la sua amante. Direi di no. No, ma si può tranquillamente dire, questa Cala Zanzara è una casa di vetro, qui ieri ci sono state confessioni pazzesche. Direi di no. Però a lei la gnocca piace, signor Papa, mi dica la verità. A lei, le donne piacciono, su, è inutile girarci. Ma guardi che io diffido profondamente degli uomini ai quali non piacciono le donne. Ah sì, Sì. E poi bisogna diffidare anche degli omosessuali, dunque lei diffida. Ma guardi, l'omosessuale non è un uomo, l'omosessuale ha gusti diversi. Io mi riferivo al carattere, ad esempio Hitler era una persona che è passata alla storia per avere una certa asetticità sessuale. Addirittura Hitler, ma facciamo una persona più attuale, racconta. Chi è la persona che lei conosce che ha una No. Woodcock no, per esempio. Beh, poi ci sono quelli ai quali piacciono le donne ma non hanno fortuna, questo in genere frustrazioni. Woodcock è frustrato? Ah, non lo so, questo lo dica lo so. Lei però. Questo vabbè, ma insomma, al di là di questo. La cosa interessante, perché vabbè, che lei dice che il signor Woodcock, questo dice lei, il signor Woodcock è uno a cui piacciono le donne, in particolare le donne, quelle indagate, come funzionano, capito, le... Ma Napoli è una città piccola, alle feste di San Martino qualcuno si è lamentato. Ecco. Alle feste di San Martino? Che è un quartiere napoletano. Qualcuno si è lamentato che lui è un provolone, in sostanza. Come si dice in napoletano? Come lo dicono in napoletano? Diciamo che non riscuote il successo che vorrebbe riscuotere. Ah, cioè ci prova ma non ci riesce, questa è la sostanza. Come si dice in napoletano? È un'espressione napoletana, uno che ci prova. No, comunque... non c'è. Ma come no? Uno che ci prova sempre con le donne. Cioè... No. Sì, no, ci sarà, onorevole Papa, su. Non mi so bene adesso. Ma come non le so bene? Comunque io voglio capire una cosa, al di là di tutto. Auto blu e 8 finanziari per la famiglia Papa. Sì, ma veramente magari. Queste persone erano a sua completa disposizione? Assolutamente. Ma io ho avuto una macchina di servizio, come credo ce l'abbia anche lui attualmente. Vabbè, quello è magistrato. Lo ero anch'io per il periodo in cui sono stato capo di gabinetto vicario al Ministero della Giustizia. E questo lo vedete in tribunale. Io la cosa che voglio capire, i figli lei li ha fatti mai accompagnare con questa macchina? Mi dica la verità, nient'altro che la verità. Ma per carità. Mai i figli sono saliti su quella macchina, mai. Poi per notizia del dottor Woodcock, i miei figli non hanno mai fatto calcetto. Mai stati a calcetto? No. Mai stati a calcetto nel quartiere di Posillipo? No. In piscina? No. In piscina ci vanno, ma ci vanno con la mamma in Vespa. Mai andati con questa macchina della finanza? No, mai. Direi proprio di no. Direi, è tutto inventato, scusi. Avranno interrogato sti finanzieri pure a farselo dire. Infatti si dovrebbe capire come mai il dottor Woodcock continua in qualche misura a estorcere dichiarazioni. Adesso si è portato su povere persone, francamente, rispetto alle quali poi va a conteggiare, facendo diventare 185.000 euro la somma di diaria di circa 10 anni di circa 800 euro al mese. Questo poi è un altro calcolo. Però scusi un attimo, sua moglie è mai salita sulla sua macchina per farsi portare al lavoro? Ma guardi, mia moglie non sale neanche sulla mia macchina privata perché gira in Vespa. Tutto inventato, dice lei? Temo di sì. È possibile, sarebbe incredibile, tutto inventato, Papa. Le posso assicurare, dopo 101 giorni di carcere, 24 su 26 capi di imputazione caduti, un processo che evidentemente dà un po' fastidio al dottor Woodcock perché non sta andando come vorrebbe lui, che la cosa non mi sorprende. Comunque non le sorprende che sia tutto inventato? No, direi proprio di no. Woodcock si è concentrato su di lei? Come mai? Ma perché forse lui soffre di forme ancestrali di antipatia che magari risalgono proprio all'epoca del ministero. Senta Papa, ma lei si vuole ricandidare? Guarda, io sto portando avanti una battaglia sul mondo delle carceri. Ma si vuole ricandidare, sì o no? Io, se avrò la possibilità di portarla avanti, vorrei ritornare in Parlamento. Se non ci sarà questa possibilità, continuerò a portare avanti questa battaglia. Ma ha parlato con qualcuno per sta ricandidatura famosa? Non mai, con chi deve parlare? Ma sa, in questo momento con chi si deve parlare? Dice lei, non si sa con chi si deve parlare. O magari chiederò consiglio proprio a Woodcock o a qualche altro politico. Beh, Woodcock può in realtà decidere se passa questa legge sulle sue sorti, in parte. Ma vivo anche questa situazione con grande serenità. A quel punto mi metterà lui sul suo stato di famiglia, però. Signor Woodcock, capito Parenzo? Signor Woodcock, ma guardi, si vuole candidare in politica, secondo lei? Non scandisca lo spelling, che perché? Recentemente un autorevole giornalista italiano è stato querelato e condannato a perché? Circa 600 euro per aver tradotto il cognome del dottor Woodcock. Mi spieghi questa cosa? Non parlo inglese. La Cossiga già. Ah, sì, è una battuta che fece già Cossiga, perché in inglese, secondo Cossiga, il significato del nome del Savutko, che noi peraltro salutiamo, omaggiamo anche noi. Omaggiamo con deferenza assoluta e totale. Omaggiamo, non esageriamo. Ma è singolo, lei è sicuro che è singolo adesso, sì, signor Woodcock? È singolo, ma com'è che lei sa tutte queste cose, che è singolo il signor Woodcock? Ma è una voce che circola. la voce che circola. Beh, che però singolo. Ho capito, non si può dire così. Vabbè, ma è singolo, che puoi fare? Mica è un'accusa, mica abbiamo detto un criminale. Cioè... Sono fatti suoi, scusa. Ma sì, va bene. Se dicessero i tuoi fattacci alla radio, ad esempio, su Twitter. Ma lo dicono di continuo. Parenzo, però i fattacci miei, perché il dottor Woodcock continua a raccontarli? Cioè, scusi, ma lei, lei non ha mai avuto, non ha mai tradito sua moglie. Le ha attribuito un sacco di cose, mai una volta. Lei continua a insistere, dottor Cruciani, la terza volta che ci vediamo, e io non cambierò la mia versione. No, ma per carità, mica, siccome io leggo ogni tanto quella la russa, quell'altra l'Ucraina, eccetera, eccetera, io le leggo queste cose, mica le so, non mi interessa poi alla fine, cioè non è che sono interessato a queste cose. No, però è strano effettivamente, è che c'è anche il nome dell'Ucraina, della signora, ma si può chiamare questa Ucraina un attimo? Lei ce l'ha il nome di questa signora? No, no, no. Il nome, questa Ludmilla Spornik. No, no, no, perché lo pronunci così il nome? Scusa, no, Ludmilla Spornik, un bel nome, un nome. No, no, l'hai pronunciato in modo diverso, in no, modo no, volutamente, no. Volutamente... No, come no, dire, assolutamente. Intrigante. No, no, assolutamente. Ma scusi, ma il signor Woodcock è mai salito su quella macchina là? Ma mi sembra di sì, perché lui partecipò con me e con il collega Miller a una cena che si tenne in un ristorante di Via Flaminia nel 2007. Ma che c'entra? E mi sembra che gli diede un passaggio. Lei mi ha chiesto, è salito mai su quella macchina? Sì, lei ha dato un passaggio. Certo. Vabbè, ho capito, mica un reato. Ma lei mica mi ha chiesto di un reato, mi ha chiesto se lui era salito mai su quella macchina. Poi, cioè, non era la macchina di Batman, era una macchina. Una di macchina servizio, di servizio normale. Sì. Ma la cosa curiosa, lei mai portato i figli in quella macchina, mai salito, nemmeno sua moglie, solo lei ne soffriva. I miei figli stanno a Napoli, stavano a Napoli. 024-0024, dove andiamo? Claudio da Roma. Claudio, dica. Ma si è sposata la Petruni. E chi se ne frega? Cioè... Susanna Petruni del TG1 si è sposata. Ma chi se ne frega? Filata di politici per la Petruni sposa, e da allora... Alemanno passando per Casini allora... fino a Gasparri. E allora? Auguri Susanna, auguri. Claudio, dica. Certo, che però questa ce la poteva risparmiare Marenco. Marenco Petruni fino a decina. Gli fa un complimento a Parenzo, dicendo, paragonandola a Marenco, eh? Senta una cosa, io sono intervenuto perché ho sentito parlare Fede e mi veniva tanto Davide, ma io non ho capito se voi queste persone che chiamate anche Papa lo fate per renderli più ridicoli o voi pensate che invece li aiutate nei loro progetti? Non c'è nessuno scopo, nessuno, se non chiamate Fede ridicolo. Cioè, lo scopo io non di, so di raccontare delle cose, tirare fuori notizie, fare cioè, battaglia. Lui da 5.000 euro al mese, quando si è fregato metà della paccozza che doveva andare tutta all'Elemora, erano milioni, a me mi fa ridere 5.000 euro. Ho capito. Poi? E Papa, io non lo so, la cosa drammatica è chiamate dei giudici inquisiti che danno giù a un Woodcock che per me è una persona serissima, ho avuto anche il piacere di conoscerla. Allora, questa qua è l'opinione di Papa, abbia pazienza, sì, cioè, ci sarà pure lo spazio per l'opinione di Papa. Lui è lì e sembra che il processo lo fa da voi, no? Ma che il processo lo fa da noi? Ma quando? A casa sereno e contento perché lui ha detto le sue verità. E vabbè, ho capito, vabbè, ma... È allucinante. Ma non mi pare un delitto, un attentato alla Costituzione, insomma, non mi pare no, un attentato. Alla... Però, insomma, no. Delitto, non mi pare un regicidio. È un delitto, no? Ma se non è ancora coperto da immunità il signor Woodcock. Si può anche scherzare, ridere, sì, giocare, vabbè, e criticare. Il discorso è questo: fino a prova contraria. Voi gli avete dato delle accuse. Ma se vuole venire a parlare, il signor Woodcock, magari venisse a parlare. Però non c'è problema. A Papa gli avete detto: hai fatto questo, hai fatto quello. Dice fate la finta. Beh, lui dice che non ha fatto niente. E lui poi accusa Woodcock che va in giro a cercare le indagate. Vabbè, ho capito, ma ognuno risponde delle sue... Ma è un pazzo. Comunque, vabbè. Tolto un papa, se ne fa un altro. E quindi questo l'abbiamo eliminato, sia non ancora fisicamente... Ma chi? Chi abbiamo eliminato papa. Fisicamente? Ah, papa. E addirittura fatto, fisicamente. Morto un papa, ne fa un ma veramente altro. Non è morto, cioè ancora non ma è morto. Ma io dico non fisicamente. Vabbè. Dico spiritualmente Roberto morto, da Milano, grazie. Roberto da Milano, grazie Claudio. Roberto. Buonasera, dottor Crociani. Buonasera, dottor Parenzo. Ma io avevo chiamato quando ho sentito quella gentile giornalista che avete intervistato del PD sì. Allora? Dire, sì, purtroppo non mi ricordo il nome. Vabbè, Geloni, allora? Ecco, dire che era una vergogna che avessero detto, che mi perdoni, che Renzi avesse detto della perché è una parola violenta, la rottamazione di seguito. Veramente, vive in Italia questa persona, vive al di fuori, cioè, perché se la violenza deve scatenarsi dagli italiani non sarà sicuramente per una parola detta da Renzi. È sufficiente leggere e vedere quello che sta capitando attualmente in Italia e vedere cosa non stanno facendo. Sì, ma qui stavamo parlando di un'altra cosa, scusi, stavamo parlando, secondo me comunque non è che Renzi ha ispirato quella... Renzi ha ispirato quella fotografia. Stiamo parlando di una cosa precisa, di una foto scattata evidentemente da un militante di Renzi, un amico di Renzi o comunque qualcuno che sostiene Renzi, in cui c'è il camper di Renzi che mette sotto una gigantografia di D'Alema. Questa foto è stata ritenuta violenta perché chiaramente un camper che mette sotto D'Alema non è una bella foto, e il nostro ospite, che è il direttore della televisione ufficiale del Partito Democratico, ha detto che Renzi violenta. L'ha un po' ispirata, questo è il punto. Stiamo parlando di una cosa, non è che ha attribuito a Renzi tutte le responsabilità del mondo. Ha detto che è stata ispirata dal che ha creato Renzi, che ha detto comunque una cosa pesante. Io non sono d'accordo. Sì, sì, no, io sono felice che lei non sia d'accordo. Va bene, grazie. Marco da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, rapidissimo. Due curiosità che poi potevano essere anche, insomma, evase guardando un po' sulla rete, eccetera. Però una è questa. Si parla di rottamazione. Io ero stato un po' assenteista dalla Zanzara, eccetera, per motivi di lavoro, lontananza, eccetera. Ho riacceso e sintonizzato sulla Zanzara e c'è Parenzo. Che ne dice di sostituire, rottamare un po' Parenzo e farsi una nuova spalla, un nuovo partner giornalistico? La rottamazione di Parenzo. La rottamazione di quello Parenzo. Quello si può sempre fare, caro. Quello si può sempre fare. Vengo a mangiare a casa sua dopo. Ma no, ma il problema è che decido io e non lo rottamo, questo è il punto. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. A me non mi rottamerà nessuno. Se questa è la frase castica avete ripreso, se no lo rifaccio per le telecamere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A me non mi rottamerà nessuno. Radio 24. La passione si sente.